Stasera presentiamo questo bel libro che è L'antimaschio, critica dell'incoscienza maschile, che è in realtà una raccolta di testi, anzi una ripubblicazione di una raccolta di testi, comunicati e prove, non so come si possano definire, diciamo verbali, raccolte scritte, di elaborazioni di collettivi, persone maschi tendenzialmente, che negli anni 70-80 facevano politica femminista, potremmo dire autoinchiesta sulla propria condizione di maschi all'interno di un sistema di patriarcato. Punto. Va bene come presentazione? Sì. Si può dire? Sì, sì, prova di parlare al microfono, sì, se no non funziona. Okay. No, allora è verissimo. In realtà sono proprio solo maschi gli autori, non diciamo, sono quasi gruppi che praticavano un separatismo maschile, se possiamo dire così. E, perché insomma andavano praticando l'autocoscienza proprio prendendo esplicitamente ovviamente ispirazione dalle pratiche d'autocoscienza femminile e femminista, e poi correggo diciamo l'arco temporale. In realtà il testo, la prima edizione di questo volume è del 77 e il testo più tardo, quindi più prossimo alla prima edizione, è un testo del 1976. E diciamo che tutti i testi che raccoglie sono proprio tra il 71 e il 76, questo lasso di tempo. E posso aggiungere subito come elemento, sono tutti figli proprio evidentemente del 68, cioè sono proprio tutti diciamo così inscritti in quella traiettoria, in quella fase diciamo storica aperta con gli eventi simbolicamente diciamo condensati nel 68. E appunto dicevi giustamente, è una raccolta di saggi. E infatti diciamo è un'antologia divisa in quattro parti, e sono quattro parti geograficamente diciamo così definite, perché raccoglie appunto un insieme di testi provenienti dagli Stati Uniti d'America, è il primo capitolo. Il secondo è riguarda invece testi inglesi che vengono dall'area UK più o meno, e poi la Germania, sono testi dalla Germania e dall'Italia. E poi sono queste le quattro sezioni. E poi c'era una prefazione abbastanza breve e introduzione del primo curatore dell'edizione sia del 77 che dell'82, che risponde al nome di Stefano Segre. Okay. E prima edizione appunto di Miozzi Editore, tra l'altro abbiamo qui tutti e due, questa è l'edizione di Miozzi Editore 77, e poi Gamma Libri 82, che anche Mauro può poi magari dire qualcosa, è un diciamo a livello editoriale una cosa un po' particolare, perché sono proprio due edizioni diverse con un editore diverso, molto ravvicinate, no? Nel 77-82, cioè non è uno strato, dice una ristampa che il libro è andato bene, no? Invece proprio una nuova edizione, un altro editore, assolutamente identica, cioè la prefazione e introduzione nella prima edizione, poi prefazione e introduzione sempre entrambi di Stefano Segre nella seconda. L'unica cosa che cambia tra la prima e la seconda edizione è il sottotitolo, che appunto nella prima edizione è Critica dell'incoscienza maschile, che è quello che abbiamo deciso di ripristinare per la terza edizione appunto del 2024. E invece il sottotitolo della seconda edizione è Autocoscienza e liberazione del maschio. E posso così, intanto possiamo sempre tornarci sopra, diciamo, ho proposto io all'editore di ripristinare Critica dell'incoscienza maschile, cioè di tornare al primo sottotitolo, perché anche Autocoscienza e liberazione del maschio è molto pertinente con i contenuti del volume, però liberazione del maschio e liberazione maschile è un lemma che all'interno dei saggi viene un po' problematizzato, nel senso che ci sono alcuni uomini che intervengono nei dibattiti di cui il libro dà testimonianza, che ritengono un po' rischioso assumere questo lemma, perché potrebbe sembrare un po' un'appropriazione indebita, perché la liberazione è quella che chiede il femminismo delle donne, è la liberazione dei soggetti oppressi dall'ordine patriarcale, che poi va ad intrecciarsi con le oppressioni di classe e di razza, e quindi insomma cioè, il ruolo maschile in un processo di liberazione più ampio ovviamente esiste, va nominato, bisogna diciamo così risolvere questa questione appunto dell'incoscienza maschile, appunto fare autocoscienza, però ecco, nella consapevolezza anche che una società femminista, una società post-capitalista, nel senso una società emancipata, appunto ovviamente vorrà dire emancipazione per tutti e tutte, anche insomma a partire dai soggetti oppressi, poi insomma, c'è una società più libera per i soggetti oppressi e più libera poi, no? Stratificazione per tutti e tutte, anche chi non vive immediatamente un'oppressione o la vive meno. Però ecco appunto c'è, quindi c'è nella prospettiva, nessuno nega appunto che il femminismo faccia bene, possa fare bene anche gli uomini, però ecco in una fase in cui il patriarcato è ancora evidentemente vivo e vegeto, parlare di liberazione del maschio appunto può sembrare così, come rivendicazione immediata, un'appropriazione indebita che può anche sembrare, no? Quasi vittimistica, con il rischio che poi, no, alla fine vada a fraintendere, no? E quindi ecco, è un lemma un po' non problematico, ma problematizzato all'interno del testo. E quindi per questo io ho detto ripristiniamo Critica dell'incoscienza maschile, che invece è sicuramente un elemento fondativo del testo, ecco, quello appunto di fare i conti con il ruolo maschile all'interno del patriarcato, ecco, e anche dei maschi, magari non immediatamente, su questo poi magari possiamo dire qualcosa, non immediatamente diciamo patriarcali o che occupano posizioni di potere, sia politico che economico, insomma, ma di tutti gli uomini, a prescindere poi dal loro posizionamento sociale, economico e politico all'interno dell'ordine patriarcale, ecco. In questo senso per me era più pertinente, diciamo così, ripristinare il sottotitolo originale. Poi volevo dire di Stefano Segre, che avevo detto l'ultima cosa. Volevo chiedertelo anch'io, esatto, perché interessante. Perché ho detto risponde al nome di Stefano Segre, in realtà è perché non sappiamo chi sia Stefano Segre, nel senso che io ero entrato, insomma, avevo incontrato questo testo ormai una decina d'anni fa, in un momento in cui per ragioni di studio universitario mi stavo occupando del lavoro che fanno i centri antiviolenza con gli uomini maltrattanti, e quindi stavo facendo una raccolta bibliografica su tutti i testi che così avevano problematizzato la questione della violenza di genere e della mascolinità tossica, un po' insomma tutto questo ambito di ricerca, ecco, e avevo trovato questo testo. E mi ricordo che già allora avevo provato a capire chi fosse il curatore Stefano Segre, perché ero interessato eventualmente a parlarne così, però già lì ai tempi non ne venni a capo, poi non era una cosa così fondamentale, quindi avevo lasciato cadere la cosa. Poi invece quando tramite Giuseppe Burgio, che scrive la prefazione alla nuova edizione, è stata nata l'idea appunto di rieditarlo effettivamente, e ci siamo rimessi sulle tracce di Stefano Segre e non ne siamo venuti a capo. E il segreto tenuto benissimo, sì, sì. Il segreto di movimento, che di solito, esatto, è un colabrodo. Infatti tra l'altro, a proposito di questo, siccome tra l'altro Miozzi Editori e Gamma Libera, entrambi editori milanesi, quindi noi ho provato appunto a sentire anche proprio gli ambienti LGBT milanesi, del femminismo storico milanese, soprattutto anche tutta la rete di Maschile Plurale, no? E che, dove da qui insomma appunto c'è l'associazione che eredita maggiormente la pratica dell'autocoscienza maschile, e nessuno di loro però ha trovato una cosa, e quindi alla fine la soluzione un po' proposta nell'introduzione che scrivo è che possa essere uno pseudonimo, a proposito di, no, di pratiche di movimento, perché effettivamente in quegli anni era molto diffusa la pratica anche collettiva di darsi poi uno pseudonimo, cioè magari, infatti dico, è presumibilmente uno pseudonimo magari anche collettivo, cioè potrebbe essere un lavoro di un gruppo di uomini che aveva cominciato a fare questo percorso, che ha raccolto appunto questi scritti e li ha dati alle stampe con questo nome, ecco. Ovviamente io butto lì, se qualcuno invece ne sa qualcosa altro, di Stefano Segre. Esatto. Ma quindi sarebbe un collettivo americano, perché per esempio questo fatto che ci sono dei testi che arrivano dall'Italia mi fa pensare che fosse un collettivo italiano, invece no. C'è stato il testo originale è inglese. No, è allora, cioè, il, no. No, cioè, nel senso, il testo originale, cioè questo, il primo è una, cioè, a parte la sezione italiana e l'introduzione, la prefazione prima, introduzione poi di Stefano Segre, sono tutte traduzioni. Okay. Fatte da, da. In realtà ci sono, c'è il nome delle traduttrici, stavo dimenticando loro, e anche queste abbiamo, siamo andati in cerca delle traduttrici e non niente. È la Bibbia praticamente. Esatto. Passa a un certo punto, ma e quindi no, però la, e quindi c'è sostanzialmente la parte statunitense, inglese e tedesca, che sono testi tradotti. E noi in questa nuova edizione abbiamo sostanzialmente, cioè, usato le stesse identiche traduzioni, tant'è vero appunto che c'è ancora i nomi delle traduttrici, anche se non sappiamo chi sono. E io sono intervenuto minimamente in alcuni testi, giusto per correttezza grammaticale, così, però l'abbiamo veramente modificato pochissimo. E in realtà fare un lavoro di ritraduzione di quei testi è impossibile per ragioni di reperimento delle fonti originali, perché a parte alcuni che sono su riviste che, diciamo, effettivamente sono trovabili in alcuni archivi, tanti testi sono veramente, erano originariamente volantini, fogli studenteschi, lettere aperte, resoconti di assemblee, no? Quindi veramente il materiale originale è oggettivamente introvabile. E quindi, diciamo, fare un lavoro di ritraduzione non era possibile per una ragione di riferimento delle fonti. E i testi che avremmo potuto ritradurre, in realtà abbiamo deciso appunto di fare noi degli aggiustamenti minimi, anche perché il senso vero di una riedizione di un testo come questo è appunto fare un po' di genealogia culturale di un discorso politico, di una riflessione, di una parte, di un pezzetto, diciamo, di una più ampia riflessione che è attorno agli studi di genere e agli studi sulla mascolinità, e quindi aveva anche il suo senso rifarlo circolare con le parole con cui chi ha dato vita a questo discorso l'ha fatto, no? Quindi ecco questo. Grazie della spiegazione, anche perché appunto alcuni punti misteriosi, tra cui l'identità di Stefano Segre, o anche soltanto il fatto che tu, mi pare che sia proprio nella tua introduzione, se non sbaglio, che parli proprio del fatto di Stefano Segre, che non si sa chi sia, un nome, uno pseudonimo. In realtà era, secondo me, molto interessante. Allora, in realtà, allora voglio partire dall'inizio, ma è complicato questo inizio perché ci sono tante introduzioni e prefazioni, per quelle cose un po' si mischiano. Se non sbaglio, sempre all'interno della tua introduzione al testo, si nominano prima Gramsci e poi Hannah Arendt. In che senso? Insomma, è una cosa interessante, interpretazione della attuale condizione che viviamo, dove i femminicidi sono un problema che è emerso non soltanto perché si sono iniziati a definire come femminicidi gli omicidi di donne in quanto donne, ma anche perché obiettivamente si nota questo aumento della, adesso il termine mi sfugge, diciamo, come se ci fosse nato una specie di odio da parte di maschi verso le donne. Una recrudescenza. Perché? Perché essenzialmente ci si trova compressi tra due condizioni. Da una parte il femminile che vuole prendersi il potere che gli spetta all'interno della società, dall'altra parte l'incapacità di adattarsi a dei, come si può dire, perché veramente sono povero di lessico stasera, il canone sociale del maschio è inarrivabile. Il maschio di successo è impossibile da arrivare, a meno che tu non ti chiami signor Montezemolo e quindi puoi essere contemporaneamente di buone fattezze, con un discreto conto in banca, e quindi puoi essere completamente donnaiolo ma anche arrivato professionalmente. Chi è che può farlo in una periferia di una qualsiasi città o addirittura magari fuori da un paese occidentale dove la vita è completamente diversa? Essere stretti tra queste due forze che comprimono il proprio ruolo come maschio nella società porta poi a queste condizioni di risposta violenta rispetto a una donna che vuole semplicemente reclamare per sé la propria libertà, l'indipendenza, ti lascia o lascia il proprio uomo, vuole tenere con sé i propri figli o vuole cercare una carriera professionale. E questa cosa, secondo me, era molto interessante. Beh, la citazione di Gramsci poi è quella molto famosa, per cui quando il vecchio non muore ma il nuovo non può nascere, si generano i mostri, e i mostri sono tendenzialmente i maschi che uccidono le donne che sono il nuovo che vuole nascere, ma non riescono a dismettere i panni del vecchio che non vuole ancora morire, che è il vecchio ordine patriarcale, per cui è l'uomo che comanda, è l'uomo che ha tutte quelle parti che poi nel libro, nell'introduzione di Stefano Segre, vengono definite come il dividendo del patriarcato. Cioè noi maschi comunque sempre la tua parte. No, esatto, sì, sì, dividendo del patriarcato, che è essenzialmente quello che un maschio comunque ci guadagna, essere maschio in un sistema dove comunque c'è classismo, dove comunque c'è razzismo, ma c'è anche patriarcato. E per cui quando il maschio torna a casa dalla fabbrica dove viene sfruttato o rientra in casa dalla società dove viene razzializzato, comunque è maschio e può permettersi di non adempiere al lavoro di cura dei propri figli, delle proprie figlie, perché tanto comunque è maschio e allora un pochino comunque ci guadagna. Questa cosa qua è, secondo me, era molto interessante. Poi dopo vado a leggermi la parte di Hannah Arendt, perché ho già fatto troppi strafalcioni, quindi non ne voglio fare più. Vado a rileggere e poi ti faccio la domanda. Se vuoi partire da questa parte qua, secondo me, da come viene raccontata poi nei vari documenti del libro o semplicemente da come l'hai vissuta tu, come l'hai interpretato tu che lo scrivevi, secondo me è una cosa interessante, perché è un fenomeno attuale con cui abbiamo a cui confrontarci, ecco. Certo, no, allora hai detto tantissime cose e insomma hai detto anche tutto bene, eh? Cioè, nel senso, io sono d'accordo, appunto la questione, io ti tiro in ballo proprio questa famosissima citazione di Gramsci, appunto, che le crisi sono quel momento storico, la congiuntura storica in cui il vecchio non muore, agonizza ma non muore, il nuovo fa fatica a farsi strada, in questo chiaroscuro nascono i mostri, no? Diceva. E appunto io ti tiro in ballo questa questione per due ragioni. Intanto, appunto, perché penso che sia è meritatamente nota, appunto, questa definizione, perché anche in questo caso funziona bene a fotografare una dinamica complessa, no? che rispecchia la complessità del patriarcato come ampio ordine simbolico e come sistema di potere, quindi con un impianto, diciamo, un ordine simbolico potente, con una sua propagine in ogni ambito, diciamo così, sociale ed esistenziale delle persone, uomini e donne. E effettivamente, cioè, noi siamo di fronte ad una crisi del patriarcato, no? E questa è tra l'altro, diciamo, una crisi del patriarcato che viene anche rivendicata dal femminismo, no? Come è il femminismo la principale forza, diciamo, sociale, politica, di opinione e di pratica, che ha incrinato diciamo così la naturalità dell'ordine patriarcale, no? Qualcosa che prima veniva, diciamo così, considerata come nell'ordine naturale delle cose, no? E l'aveva fatto proprio rompendo con la naturalità del ruolo della donna, no? Cioè, quando infatti Segre comincia la sua introduzione dicendo dire che donna si diventa non è più una novità, no? E bisogna imparare a dire anche che uomini non si diventa, e come non, diciamo, si diventa questo tipo di uomo, cioè un uomo, diciamo, perfettamente inserito a vario livello negli ingranaggi patriarcali, si può diventare anche qualcos'altro, no? Ecco, comunque, appunto, sicuramente l'ordine patriarcale, diciamo, è stato messo in discussione da una delle più potenti rivoluzioni culturali, appunto, del secolo scorso, e non solo, insomma, oggi, cioè in tempi recentissimi, no, c'è stata una nuova ondata di femminismo, tutto il movimento In Una di Meno, insomma, c'è tutto un movimento di opinione, di pratica che effettivamente incrina la naturalità dell'ordine patriarcale, no? E questa crisi, però, appunto, del patriarcato, c'è tanta critica femminista, e riconduce appunto una oggettiva recrudescenza della violenza patriarcale nei femminicidi, negli stupri, nella violenza di genere e in tutto quello anche che poi supporta, no, retoricamente, minimizza retoricamente questi orrori, no? E, come una risposta rancorosa, reazionaria del maschile al cambiamento in corso, no? E in questo senso appunto la suggestione di Gramsci, cioè il vecchio che non muore, cioè noi viviamo in una società dove ci sono molte spinte emancipatrici, tendenze appunto di liberazione di tutto il, cioè delle donne, di tutto il mondo LGBT, insomma dove le istanze di liberazione ed emancipazione anche in termini appunto di genere e sessuali sono molto forti, però ovviamente cioè, una società post-patriarcale è molto, molto lontana a venire effettivamente, no? Per tante ragioni che penso non devono essere qui elencate, credo cioè, che siamo tra noi sicuramente abbiamo ben presente in che senso appunto una società post-patriarcale è molto lontana a venire e appunto anche perché c'è questa risposta rancorosa e reazionaria. Il vecchio appunto non muore, quindi c'è una recrudescenza appunto, ci sono mostri che nascono, e, però ecco appunto c'è anche un nuovo che a fatica cerca di farsi spazio, appunto sono tutte le pratiche femministe, sono tutte le pratiche insomma dei movimenti che si assumono anche piccoli pezzetti di lavoro per una società più inclusiva, più accessibile, più democratica, poi insomma, possiamo dargli tutti gli aggettivi che più preferiamo, ma ci capiamo, insomma, una società più giusta per tutti e tutte. E sicuramente c'è cioè, in questo nuovo che insomma, cerca di farsi strada, c'è sicuramente anche tutta la riflessione sul maschile, tutti gli uomini, diciamo, che ovunque, in qualunque posizione occupino, in famiglia piuttosto che al lavoro, piuttosto che nei collettivi, insomma, perché questo tra l'altro è interessante, sono tutte riflessioni che vengono dai movimenti, appunto dicevo, sono figli del 68, sono tutti riflessioni che nascono in contesti di movimento, e ecco, cercano appunto di ripensare al maschile e pensare ad un'altra maschilità, no? E appunto come diceva Segre, appunto come si dice, cioè, donne si diventa, anche uomini si diventano, e ecco, quindi in questo senso appunto la crisi del patriarcato, riprendendo appunto questa suggestione di Gramsci, pensando anche che in realtà dal punto di vista reazionario, cioè conservativo rispetto all'ordine patriarcale, si parla tantissimo di crisi degli uomini, attribuendo la colpa con un grande, insomma, ma di cui la destra, soprattutto la destra radicale, è molto abile, no, in questi capovolgimenti retorici, per cui alla fine è colpa del femminismo se non c'è più un ordine simbolico, cioè si è rotto un ordine simbolico e non ci sono più gli uomini di una volta, i veri uomini non picchiano le donne, e è colpa del fatto che sono saltate saltate la famiglia tradizionale, è saltato il ruolo dei padri, no? Non ci sono più i padri di una volta, perché non c'è più la capacità maschile di assumersi la responsabilità, no? In questa perdita, cioè, quello che apre una crisi viene appunto riletto tutti in termini, diciamo, conservativi, bisogna ritornare al prima, no? E diciamo sì, tant'è vero che viene spesso detto, noi non solo i veri uomini non picchiano le donne, ma anche raccontavo prima, non più di 10 giorni fa è stato un commento ad un caso di cronaca, ora non mi ricordo se specificatamente qual era, ma un consigliere regionale dell'Abruzzo, di Fratelli d'Italia, ha dichiarato gli uomini picchiano le donne perché non sono più virili, no? E cioè, qui è chiaramente una stortura. Che fare la guerra sia tornato di moda, gli uomini non sono più virili. Esatto, no, no, quello che è interessante appunto, che volevo dire, no, rispetto a questa a questa idea, cioè che poi invece non ci si rende conto, cioè che appunto che anche in buona fede, adesso ho portato questo caso assurdo del Consiglio dei Fratelli d'Italia, che quindi sappiamo benissimo che partita gioca, però anche diciamo ci c'è un certo, una certa ingenuità, un certo così per dire, appunto, non ci sono più gli uomini di una volta, i veri uomini non picchiano le donne. Tante volte ci sono anche campagne istituzionali magari che vanno in questa direzione, no? O i veri uomini non pagano per le campagne contro la prostituzione, la tratta, no? E, però appunto manca tutta una parte di riflessione, cioè che cosa vuol dire veri uomini, che cosa vuol dire vera maschilità, contando appunto che si rischia di andare così ad avere nostalgia di un ordine appunto simbolico che si pensa perduto o per colpa del femminismo o più a destra vai per colpa della cultura woke, per colpa di quello che vuoi, magari invece per settori più moderati ma comunque conservatori per colpa, che ne so, della... perdita della fede religiosa, sì, ecco, cioè, bravissimo, cose così, insomma, o perché la società globale, le internet, i social network, la distrazione, no? Non so, tutte cose del genere, e senza considerare appunto che veri uomini, cioè vuol dire andare a ripristinare un ordine simbolico che ha strutturato, che rendeva la subordinazione della donna e la superiorità maschile la norma, la regola, la naturalità, e anche non fai conti col fatto che è vero, noi adesso diciamo c'è una recrudescenza, però c'è anche un fatto da dire, cioè oggi le donne denunciano, la violenza vengono denunciate per grazie al femminismo, cioè non è che prima non succedessero, cioè adesso c'è una forza, cioè l'affermarsi appunto delle donne come soggetto politico, del femminismo come movimento di opinione ampio, che fa sì appunto che ci sia tutta una verbalizzazione, una presa di parola, no? sul patriarcato e le sue storture, cioè quella nostalgia lì può essere anche nostalgia per quando le donne erano appiattite all'ordine patriarcale, no? E poi un'altra cosa rispetto a Gramsci è interessante, perché tu dicevi appunto del maschio esemplare, no? Perché nel 94 è uscito un testo che si intitola Maschilità, che poi è Identità e trasformazioni del maschio occidentale, il sottotitolo, è un testo del 94 tradotto in italiano nel 95, tra l'altro per Feltrinelli, quindi un grosso editore che si è preso subito la briga, diciamo, di tradurre questo testo e pubblicarlo, di Connell, che è una sociologa, una donna trans, e questo testo, diciamo, inaugura i masculinity studies, gli studi sulla mascolinità a livello accademico. E per me era estremamente interessante, io appunto lo scrivo, che dopo aver usato appunto l'immagine di Gramsci per cercare di fotografare la crisi del patriarcato e le tendenze che queste crisi che questa crisi apre, cioè una tendenza trasformativa e progressista, una tendenza invece regressiva, se non appunto reazionaria e violenta. Ecco, e Connell fa proprio ricorso al lessico gramsciano nel suo testo per definire la mascolinità egemone, no? E definendola come quella, diciamo, conformazione della prassi di genere che in un dato momento storico risponde al problema della legittimità del patriarcato, cioè configura il modello con cui può poi giustificare la superiorità maschile rispetto a quella femminile. E appunto parla di un gruppo maschile egemone, appunto di un certo modo di intendere la maschilità come egemone, proprio in riferimento gramsciano, facendo riferimento appunto all'egemonia gramsciana, e poi dice, cioè, il blocco egemone, come appunto in Gramsci, non è un blocco monolitico, ok, è perfettamente identico al suo interno, perfettamente, diciamo, coeso, ma ci sono a quell'interno ci sono delle gerarchie, ci sono delle rotture, ci sono delle tendenze, no? Ci sono forze anche in contraddizione fra loro, e ne nomina soprattutto due, appunto il maschio egemone, scusami, il maschio esemplare, che potrebbe essere Montezemolo, va benissimo, o comunque un qualsiasi, che ne so, attore hollywoodiano, un calciatore, forse ancora meglio, e il maschio complice, questo è molto interessante, e questa riflessione sul maschio complice prende benissimo tutta l'interrogazione degli uomini dell'antimaschio, cioè diciamo uomini che non possono che sostanzialmente aspirare ai godimenti, allo stile di vita, alla bellezza del maschio esemplare. In realtà il più delle volte sono sfruttati, alienati sul lavoro, magari razzializzati, come dicevi tu nel caso di maschi non bianchi, o discriminati per l'orientamento sessuale, no? Subiscono vari ordini di discriminazione, però appunto c'è il dividendo patriarcale, no? E in realtà è sempre Connell che parla di dividendo patriarcale. Io faccio questo parallelismo, dico è quello che Segre lo chiama la carota del potere maschile, cioè il patriarcato dà delle legnate ai maschi complici, no? Però poi gli dà la carota del potere maschile, e attraverso il quale loro stanno poi buoni rispetto al capitalismo, rispetto ad altre forme di oppressione, no? Perché c'è questa carota. Però appunto dice Connell, nei momenti di crisi, appunto, come può essere la crisi del patriarcato che interessa anche noi, la classe egemone, cioè appunto il blocco egemone, va in crisi, le forze contrapposte possono essere... può acuirsi la loro contrapposizione, no? Cioè i maschi complici possono vedere magari sempre più inarrivabile, possono magari vedere le contraddizioni, c'è una qualcosa scricchiola nell'ingranaggio poi della sottomissione anche di questi maschi complici, e può essere un momento favorevole per quelli fuori dall'egemonia. E diciamo Connell li descrive, li nomina come i maschi dissenzienti, no? E Segre ne parla in termini dei, cioè, i maschi che decidono di diventare qualcos'altro. Diciamo, Segre è sempre un po' più prosaico rispetto al linguaggio molto più teorico di Connell. E, però ecco appunto questa idea del blocco della maschilità egemone che può appunto vacillare di fronte ad un modello maschile sempre non solo inarrivabile per questioni economiche, per questioni di altro ordine, ma anche sempre più messo in crisi appunto dal femminismo, sempre più messo in crisi da tendenze trasformatrici della società. Appunto maschi complici appunto possono essere sempre meno coinvolti, sempre meno partecipi, e appunto comunque in ogni caso può esserci sempre più spazio per appunto i maschi dissenzienti. E poi che forme ha questo dissenso, appunto ha a che fare col dibattito, con la discussione. E vabbè, non so se vuoi dire qualcosa, non ho ancora detto niente di c'era l'altra questione di Arendt, ma posso ridirla dopo. Se vuoi dire qualcosa tu, Mauro, io ho parlato già tanto. No, così respiri anche. Io ho conosciuto questo testo molti anni fa, in realtà, quando mi ero messo a studiare un po' il catalogo di Gamma Libri, perché Gamma Libri è stata una casa editrice a fianco dei movimenti, anche movimento omosessuale, quello femminista, poi è diventata un'altra. Gamma Libri è durata un po' di anni, poi divenne Caos Edizioni, che in realtà negli anni, fine anni 80, iniziò a diventare una di quelle case editrici specializzate nella musica. Cioè, se guardate, tra l'altro ci sono ancora in catalogo numerosi libri di Caos Edizioni, loro recuperano il catalogo di Gamma Libri. Non conoscevo invece la prima edizione dell'Antimaschio, che è Miozzi, che è quella di Miozzi del 77. Faccio solo questa parentesi più editoriale, perché secondo me è molto interessante ai fini della discussione più politica culturale che questo testo consegnava e consegna oggi, perché appunto mentre Gamma Libri era abbastanza nota come casa editrice appunto legata alle sinistre, ai movimenti sociali, ai movimenti antagonisti, io Moizzi non conoscevo nulla. Successivamente, quando mi avevi fatto presente la ripubblicazione di questo libro, e poi quando sono venuto a Verona per la presentazione che avevamo fatto in Sobile, avevo cercato un po' di studiare questa casa editrice. Di Moizzi non si sa nulla, se non che fu una importante casa editrice di guide turistiche. E questo lo dico perché, dato che il libro esce nel 77, potrebbe essere letto come un tentativo commerciale, economico della casa editrice di allora, ma forse anche politico, chi lo sa, di provare a tirar fuori un testo diverso rispetto a quello che poi avrebbe fatto successivamente, cioè guide turistiche. O forse c'era un legame con questo Stefano Segre, o forse Stefano Segre altro non è che qualcuno di Moizibo, non lo so, dico e mi sono detto, però sicuramente interessante questa questa pubblicazione, diverso appunto è Gamma Libri, anni 80, insomma ripubblica una serie di libri, dà spazio a libri nuovi, a libri nuovi di movimento, quindi io lo conoscevo con questo secondo sottotitolo dell'autocoscienza e della liberazione del maschio, però adesso al di là delle case editrici, un po' usciva in queste tue prime risposte, ci sono alcuni temi che sono importanti per affrontare il libro in una maniera utile ad oggi. Il primo è il contesto in cui questo Stefano Segre mette insieme questi testi, perché se noi leggiamo i testi ci rendiamo conto che la parola d'ordine è sicuramente il femminismo, è ok, ed è un femminismo situato politicamente, geograficamente, perché parliamo del femminismo della seconda ondata e quindi di tutto quello di tutti quei movimenti, non solo in Italia, appunto, ma in Occidente. Ma si sente molto il post 68. E lo si sente nella sua veste soprattutto anti-autoritaria, anti-militarista, anti-gerarchica, lo ritroviamo in diversi scritti di differenti contesti nazionali, ci sono dei riferimenti negli Stati Uniti ma anche, anche nella parte della Germania, cioè questo elemento dell'anti-autoritarismo come elemento fondamentale per intanto per leggere e poi ripensare una maschilità differente è ben presente. Sono questi due grossi, i due grossi, diciamo, i due grossi contributi politici strutturati poi col movimento, quindi quello del femminismo della seconda ondata e quello antimilitarista, che poi sostanzialmente, lo dico perché ad oggi potrebbe essere utile ripensare questo, quello antimilitarista altro non è che un mix, e lo si sente un po' leggendo o comunque provando un po' a contestualizzare i vari riferimenti che ne escono, quello antimilitarista è un mix di movimento pacifista, che è stato uno dei movimenti internazionali con aspirazioni internazionaliste più grosse comunque di quell'epoca e in realtà fino a pochi anni fa, oggi sembra che sia quasi reato parlarne o nominarlo, e movimenti più prettamente politici, antagonisti delle sinistre extraparlamentari, quindi con tutto quel contributo contro l'esercito, la polizia, cioè come strutture di istituzioni di un ordine costituito che non era solo l'ordine e non è solo l'ordine dello Stato-Nazione, ma è proprio l'ordine delle norme sociali e quindi delle norme di relazioni di genere, eccetera, eccetera. Questi due movimenti e questi due portati, questi due contributi sono molto presenti. Aspetta che mi ero appuntato delle cose. Ah no, sì, scusate, l'ho detto senza approfondirlo. C'è il tema appunto delle sinistre, della galassia della sinistra, che secondo me è importante riaffermare oggi, in cui viviamo momenti di spoliticizzazione di alcuni grossi temi, e anche il tema di genere, io lo conosco e lo sento meglio nel movimento LGBT, quando spesso, soprattutto recentemente, ci dicono che le omosessualità, i diritti civili, eccetera, eccetera, non sono né di destra né di sinistra. In realtà, ricostruendo le genealogie dei movimenti, le genealogie anche del pensiero, dei pensieri politici, è vero che non sono né di destra né di sinistra, perché è esistito anche un femminismo, ed esiste un femminismo di destra, esiste un femminismo borghese, esiste un femminismo nazista anche, quindi è vero sotto un certo punto di vista, però è anche vero che i processi emancipatori, cioè di liberazione e di conquista o di strappo di spazi di potere, sono legati ai movimenti delle sinistre. Questo non è per elogiare semplicemente la sinistra o i movimenti extraparlamentari delle sinistre, ma è per sottolineare i punti politici che legano la struttura astratta del pensiero e anche poi delle azioni pratiche. Non mi pare una forzatura a dire che i testi raccolti e quindi gli autori di questi testi erano probabilmente legati agli ambienti della sinistra, alcuni sono proprio dei volantini tra gli altri, quindi c'è anche una forma, no, di comunicazione, una sinistra extraparlamentare, una sinistra antagonista, una sinistra che dal femminismo e dall'antimilitarismo ha capito che anche per la questione maschile la proposta riformista non è una proposta di senso, perché è la struttura che va cambiata nelle sue forme per avere davvero un cambiamento efficace, e piccole riforme oggi potremmo dire possono essere utili in fasi transitorie, ma non sono il vero cambiamento politico. Dico questo perché si sente una connotazione anche di classe, si sente, se ci sono questi presupposti chiari nella lettura ovviamente, ma si sente anche un'altra connotazione, e si sente anche a volte nella sua assenza. Allora, è ovvio che se si approccia a un testo del 77 va contestualizzato come testo, cioè ci sono dei testi qua raccolti che se qualcuno di oggi lo scrivesse sarebbero molto problematici, è evidente. Certo. Quindi contestualizzato là dentro tutto ha un suo senso. C'è una presenza assenza, così qua poi ti faccio la domanda, che è quello invece dei movimenti che allora non erano né queer né LGBT, ma erano i movimenti omosessuali, perché parrebbe che la maggior parte di questi autori sono autori eterosessuali, cioè parlano di una maschilità eterosessuale, anche se in realtà non tutti. Cioè c'è qualcosa di significativo, perché nel contestualizzare questo volume, e quindi nel contestualizzare nella sua prima edizione per forza di cose, perché è lì che è la raccolta dei testi, bisogna rendersi conto che il 77 è l'anno dei movimenti omosessuali, è uno degli anni più importanti dei movimenti di liberazione omosessuale in Europa, ma anche negli Stati Uniti, anche forse in Australia. È un anno decisivo in Italia, per esempio, cioè un anno in cui il movimento omosessuale di allora ha delle spaccature che escono, ed escono in maniera molto forte, spaccature di anni precedenti, perché parliamo del 75 in poi, con una parte di quel movimento omosessuale italiano che aderisce al Partito Radicale e quindi ha una politica di un certo tipo, invece un movimento omosessuale che dal 75 decide di prendere nuove forme, soprattutto a Milano, ma non solo in realtà, che è quello legato a Mario Mieli, a Corrado Levi, cioè ad alcuni soggetti che invece rifiutano il legame con l'istituzione sia partitica del Partito Radicale, che in realtà fece azioni importanti poi per il nostro movimento, però c'è il rifiuto evidente, no, dell'idea del Parlamento, della rappresentanza democratica borghese, eccetera eccetera. Il 77 è l'anno grosso in cui i movimenti antagonisti omosessuali, anzi froci, escono allo scoperto in una maniera molto più forte rispetto paradossalmente al 74, al 75, con le prime piazze in cui omosessuali e lesbiche scendevano in piazza. E questo centro, perché qua dentro l'omosessualità, ma il movimento omosessuale in qualche modo, in una maniera un po' più o meno presente, c'è. Mm-hmm. Cioè, anzi, c'è un testo dichiaratamente legato al movimento inglese. E questo lo dico perché ti chiedo poi un po' di parlarne, no, di questo aspetto. Perché se è vero che perché poi leggendo il testo, scusate, è molto chiaro, anzi non mi ricordo se il testo, ma sicuramente leggendo l'introduzione di Segre è molto chiaro che era chiaro che la maschilità di per sé non ha nulla di naturale, ma che la maschilità è un modello culturale sociale, tant'è che Segre più volte lo dice, una volta sicuramente lo dice nell'introduzione, dice esiste quel modello di maschilità e noi ne proponiamo un altro, quindi nel dire che esiste un modello di maschilità non si naturalizza quella maschilità, è uno dei modelli, l'intento delle realtà collettive, dei singoli, delle esperienze politiche raccolte, quindi ipotizziamo l'intento del curatore di questa raccolta, era provare a mostrare che esiste un altro modello di maschilità. E attenzione che il denaturalizzare gli elementi dei comportamenti di genere, delle relazioni sociali legate al genere, non è qualcosa di banale, perché abbiamo forze politiche, religiose, che oggi invece giocano, ancora oggi, riportano quel discorso alla naturalizzazione dei comportamenti. avanti. Questa cosa c'è, la denaturalizzazione del maschile c'è nella sua forma, lo devono al femminismo perché donna non si nasce, tra le altre l'anno scorso la Cavarero, che è un'importante realtà femminista italiana, su questo non ci piove, se ne è uscita con un libro in cui la spara grossa e dice la Cavarero: donne non si nasce, no, donne si nasce, non si diventa. Quindi insomma, questo è del 77, la Cavarero è stata una compagna, ed è una compagna in realtà abbastanza importante del femminismo di questo paese. A distanza di 50 anni se ne è uscita con un testo che ci fa fare molti passi indietro rispetto alle elaborazioni emancipatorie. Questo qui non c'è. Ti porto così alla domanda, se c'è, che tipo a quel punto di contributo c'è da parte dei movimenti omosessuali, perché se è vero che il maschile, il maschio che qui viene rappresentato non è un maschio neutro e quindi sarebbe anche scorretto dare per scontato che fossero tutti eterosessuali, abbiamo alcuni testi, alcune intuizioni, alcuni riferimenti anche a un maschile omosessuale che per quegli anni in una maniera molto rivoluzionaria, ma forse anche oggi lo è rimasto, un po' mette in discussione lo stesso modello demascolinizzato che loro propongono, perché se tiri fuori il tema dell'omosessualità nel 77 e tra le altre la tiri fuori in relazione, perché l'omosessualità di per sé sappiamo essere uno degli orientamenti sessuali, se la tiri fuori in relazione al genere maschile sembra, cioè diciamo, porti un tassello in più di riflessione, di complicazione utile, non vuota di per sé. Quindi ti chiedo un po' di raccontarci questa parte qua, questi contributi qua, se ci sono e come ci sono, in che veste ci sono. No, allora intanto grazie, figurati, per l'articolatissima presentazione che hai fatto e questioni che sollevi. E allora la questione intanto della che dicevi sull'internità ai movimenti e alla fase appunto storica, dicevo appunto proprio un testo figlio del 68, e tra l'altro per quanto riguarda proprio il rapporto con la nuova sinistra appunto post 68, la sezione italiana su questo proprio è fuori. Prima dicevo la difficoltà del reperimento dei testi, ecco, non sarebbe per quanto riguarda la sezione italiana, che però è appunto quella meno, cioè quella che non andava poi tradotta, perché la maggior parte dei testi sono tratti dal Re Nudo e dal Pane e le Rose, quindi due riviste che erano entrambe espressione, diciamo, di lotta continua, no? Quindi il posizionamento proprio anche organizzativo è chiaro. E tra l'altro, hai fatto un accenno prima alla questione dell'intervento sulla struttura dei rapporti sociali, no? Intanto, cioè proprio da questo punto di vista, figli del 68, perché è la nuova sinistra nella sua funzione, diciamo, di pungolo e di spina nel fianco alla sinistra tradizionale, appunto le questioni di genere sono struttura, cioè fanno parte, non si fa la rivoluzione senza affrontare le questioni di genere finché facciamo la rivoluzione, no? Cioè, non c'è più la politica dei due tempi, no, che prima ci prendiamo il potere e i mezzi di produzione, poi risolviamo la questione femminile, la questione degli omosessuali, no? Cioè, è proprio perché c'è una consapevolezza che oggi diremmo intersezionale, cioè sappiamo che i rapporti economici, i rapporti di potere economico, insomma, il sistema, diciamo, proprio produttivo si nutre poi della razionalizzazione della società e della divisione gerarchica fra i sessi e insomma, della supremazia maschile. C'è quindi questa funzione nei confronti della sinistra tradizionale, ma poi in realtà c'è anche autocritica nel fatto che comunque anche all'interno dei collettivi, anche all'interno della nuova sinistra, andavano riproducendosi certe dinamiche, per cui poi insomma anche all'interno del lavoro, questa è una questione ancora aperta oggi, no? Tanto c'è che all'interno del lavoro politico, nei movimenti, nei collettivi, c'è poi una riproduzione di divisione di ruoli di genere che rispecchiano un po' la tradizione, no? E tant'è vero che appunto uno dei saggi proprio del Re Nudo dice appunto che bisogna rivoluzionare, la parola d'ordine è rivoluzionare i rivoluzionari, proprio non rivoluzionare barra Eva, cioè proprio i rivoluzionari maschi, no? e perché dice appunto la nostra modo di fare politica poi è sempre molto ambiguo, riproduce competitività, no, arrivismo, e diciamo così dentro un quadro riconducibile al maschile, quindi assolutamente. E tra l'altro anche poi rispetto alla questione che dicevi dell'antimilitarismo, appunto ti ringrazio per averlo stoniato perché è anche un aspetto a cui io sono molto affezionato del testo. Questo è forte soprattutto per la sezione americana, e che appunto sono testi che diciamo che sono molto legati al movimento di contestazione della guerra in Vietnam, e dove tra l'altro appunto veniva smascherata proprio un grande inganno della propaganda militarista, no? Il fatto della virilizzazione dell'uomo attraverso l'attività militare, attraverso la divisa, attraverso l'addestramento, attraverso appunto andare a servire la patria, insomma, cioè l'esercito, il militarismo, la guerra è proprio un enorme dispositivo di virilizzazione appunto della società, e appunto il Vietnam era una guerra per la prima volta, diciamo, significativamente mediatizzata, no? C'erano appunto immagini a colori per la prima volta, insomma, e ovviamente questo è sempre a doppio taglio, cioè è uno strumento, cioè gli stessi strumenti appunto di mediatizzazione sono strumenti di propaganda, ma possono essere anche strumenti di controinformazione, di informazione critica e libera, no? E quindi la retorica del maschio appunto che realizzava la sua virilità nella guerra, e poi c'era la controinformazione sull'effettiva condizione, poi sull'effettività, no, della guerra, su poi anche i corpi mutilati, i corpi devastati, sono mutilati negli arti, mutilati psichicamente, no, per così dire. Quindi appunto la riflessione antimilitarista e pacifista contro la guerra proprio innerva tutta la riflessione sull'altra maschilità possibile, e proprio decostruendo l'immagine appunto del militare, del soldato come un maschio esemplare, no? Per tornare a... E quindi a questo appunto è un'altra questione fondamentale, per cui ti ringrazio di averla sottolineata. E per andare alla questione poi omosessuale e della riflessione omosessuale, allora sicuramente dicevamo prima un testo debitore del femminismo, tutta una riflessione anche nella sua forma poi di pratica, di autocoscienza, appunto debitrice del femminismo, cioè quello della seconda ondata, il femminismo della differenza sessuale, però è anche un testo che deve moltissimo, cioè una riflessione e pratiche che devono moltissimo al movimento omosessuale. Tra l'altro Burgio, che è insomma uno studioso appunto di gender studies, lui nella sua introduzione dice: questo è un testo appunto che raccoglie, un'antologia che raccoglie testi non sistematici, appunto di discussione più o meno libera, se non creativa e provocativa, nei casi ad esempio del pane e le rose, no? Insomma, però dice, cioè, lui dice pullula di criptocitazioni, no? Di tutti i testi appunto che ancora una volta, come dicevi tu, ricollocano e situano questo testo proprio nella temperie culturale e politica post 68ina verso il 77, così. E lui tra i vari, insomma, ovviamente, cioè, ci sono i classiconi Deleuze, Gattari, così, però c'è anche proprio Mieli, elementi di critica omosessuale, dice proprio se i maschi dell'antimaschio, no, sicuramente Segre o chi ha scritto un'introduzione ce l'aveva presente, ma se i maschi dell'antimaschio non hanno letto, anche non avessero letto Mieli, in realtà in un certo senso rispondevano all'inquietudine, alle esigenze, alle pratiche a cui Mieli appunto dava forma poi nei suoi testi, no? Quindi c'è anche qui, se vogliamo, proprio una linea diretta. Tra l'altro appunto è vero, indicativamente secondo me gli autori di questi testi sono un'età compresa diciamo tra i 20 e i 40 anni, sono quasi tutti, cioè, anzi sono maschi bianchi per quello che si riesce a capire, diciamo classe media, medio bassa, insomma, diciamo istruiti, tutti insomma con percorsi di studio significativi, cioè se non universitari, quantomeno insomma comunque diciamo diplomati, ecco. E poi, ecco, io scrivo tendenzialmente, cioè, tendenzialmente eterosessuali. Questo sicuramente la riflessione è una riflessione principalmente eterosessuale. E, però appunto c'è un viene riconosciuto un debito nei confronti del movimento di liberazione omosessuale e nel movimento gay, e intanto perché viene riconosciuto che è, diciamo, una prima maschilità non egemone, no? È una prima maschilità dissenziente, cioè al maschile omosessuale viene subito riconosciuta una capacità messa in discussione dell'ordine patriarcale, no? E c'è poi però anche, cioè, il libro è anche attraversato da non diciamo una polemica, ma comunque una tensione di questi eterosessuali che lavorano, appunto, che cercano di pensare ad un'altra maschilità, e dicendo sì, è vero, sicuramente appunto l'omosessualità porta inevitabilmente un'istanza, appunto, di maschilità non egemone, no? Però dicono, fanno anche questa riflessione, contrariamente all'omosessualità femminile, spesso possiamo osservare nelle pratiche, nel modo di fare politica dei maschi omosessuali, il riprodursi di un certo virilismo, no? Di certe pratiche mascolinizzate, no? Eccessivamente mascolinizzate. Tra l'altro, uno dei testi della sezione inglese, perché forse in Inghilterra, appunto, Inghilterra e Stati Uniti sono i due paesi dove il movimento di liberazione maschile, nel senso appunto di fare un lavoro di ripensamento della maschilità, appunto, si era anche dato una certa struttura, e nella sezione inglese si ricorda nel 74 e nel 75 a Birmingham e a Londra, mi pare un'altra, sì. Birmingham e Londra, il movimento di uomini contro il sessismo, si era chiamato così il movimento, aveva proprio organizzato due congressi nazionali, e nella sezione inglese appunto ci sono dei testi che fanno riferimento a questi due incontri del 74 e del 75, e ce n'è uno in cui uno si lamenta del fatto che si è parlato troppo di omosessualità, no? E proprio anche poi penso a un altro andando, scusami, proprio a vedere come in realtà ci sia, cioè il fatto dell'orientamento sessuale omosessuale, diciamo, questa è la critica che viene un po', diciamo, sicuramente ha una, storicamente gli si può riconoscere un ruolo nella decostruzione della maschilità egemone, ma non è sufficiente perché appunto spesso possono esserci, anzi, un tipo di specifica virilizzazione omosessuale, no? Sostanzialmente. E tra l'altro un altro documento, appunto, dicevo, Inghilterra e Stati Uniti, questi testi appunto che polemizzano con una certa eccessiva presenza della discussione attorno all'omosessualità a questi congressi degli uomini contro il sessismo, e c'è un movimento, gli feminist, come potremmo definirli, insomma, un collettivo, insomma, statunitense, che si chiama Feminist, che potremmo dire, insomma, i femminilizzati, sostanzialmente, e che anche lì, insomma, riconoscono l'importanza di come anche proprio l'irrompere della soggettività politica omosessuale abbia aperto una breccia, abbia, no, cominciato a rivendicare esiste un altro modo di appunto di essere uomini, di incarnare la maschilità. Però anche facendo una riflessione che, correggimi poi se sbaglio, oggi potremmo dire marcatamente queer, no? Polemizza con l'identitarismo, no? Cioè polemizza con un'enfatizzazione dell'identità sessuale, dell'identità di orientamento sessuale, che secondo loro gli omosessuali hanno portato avanti, con il rischio, tra l'altro, che questo comporti, a questa iperenfatizzazione dell'identità possa portare ad una reificazione, loro dicono, cioè una mercificazione dei corpi, e quindi anche poi politicamente aprire il problema di una ricaduta in una certa mercificazione, che penso che sia una riflessione che, rispetto al pinkwashing e appunto a come il capitalismo contemporaneo, proprio con la sua voracità, no, un po' si mangia tutto, si mangia anche le istanze di liberazione, le commercializza, no? ne fa diventare merce, ovviamente disinnescando il loro portato dirompente, rivoluzionario, trasformativo, appunto sia molto interessante, no? Su questo appunto l'antimaschio fa una riflessione queer proprio perché dice, cioè, rompiamola con questo bisogno di definirci sessualmente, perché è il gioco del patriarcato, no? Rischiamo di rifare il gioco del patriarcato, cioè dandoci dei ruoli, delle etichette che poi appunto sono mercificabili, no? Sono prima reificabili proprio, no? E quindi usano terminologia proprio marxiana, e qui si vede appunto quanto fossero politicizzate queste riflessioni, e quindi questa appunto è la questione della polemica con appunto l'eccessiva enfatizzazione dell'identità sessuale, che appunto è una riflessione secondo me contemporaneissima, no? Che può, e approfitto per rispetto alla questione della maschilità, di un'altra maschilità, per dire una cosa sul titolo, prima mi ero soffermato un attimo sul sottotitolo. Il titolo del testo, l'antimaschio, è sicuramente un titolo molto ad effetto, e immagino che Segre o chi, appunto, chiunque esso sia o siano, l'abbia scelto, ha fatto diciamo sicuramente molto impattante, però diciamo che concettualmente non è proprio perfetto, no? Tant'è appunto che secondo me andrebbe pensato, cioè il vero titolo concettualmente sarebbe l'antivirilismo, no? O l'antivirilità, pensando appunto che virilismo, cioè un testo bellissimo di uno storico contemporaneista dell'Università di Bologna, si chiama Sandro Bellassai, e ha scritto un testo del 2011, se non sbaglio, che è l'invenzione della virilità, e quando io penso che si potrebbe in realtà intitolare l'antivirilismo, penso che lui in questo testo definisce il virilismo come l'esasperazione ideologica della maschilità, no? Appunto, non si tratta di pensare un'altra maschilità, che comunque, cioè, appunto, si tratta di riempire di un nuovo significato il significante maschio, no? Che però poi identifica appunto un genere che appunto è in quanto tale è culturalmente, storicamente, socialmente definito, formato, e non dato una volta per tutte. Ma secondo te non poteva essere un altro titolo corretto, un maschio alternativo? Poteva esserlo, infatti, assolutamente sì. Perché in realtà, cioè, piuttosto che essere antimaschio, giusto, perché immagino che soprattutto ai tempi era una grossa contrapposizione rispetto al maschio presentato come quello, esatto, che è Vietnam, cioè. Sì, sì. E invece qui dentro non c'è più che essere antimaschio, è il maschio dissidente. Esatto, giusto? Esatto. Infatti, guarda, l'altro titolo che potrebbe essere l'antimaschio egemone, pensando alla distinzione con, quindi assolutamente sì, non so, cioè, sono queste due, non so. Io allora prendiamo la palla al balzo, perché in realtà leggendo questo libro onestamente è stato anche abbastanza un po' doloroso, perché uno dopo l'altro venivano fuori proprio dei concetti che io avevo miei di essere maschio, per esempio il fatto scioccante subito dalle prime righe: donne si diventa, i maschi invece pensano se stessi come naturali, che poi è la base del concetto per cui, cioè, tutta la società è organizzata così, perché è ovvio che è organizzata così, perché è ovvio che sono maschio, io sono maschio ed è ovvio essere maschio, cioè non è che si deve spiegare, sono così, è naturale, è il punto di vista di partenza, è che sono maschio e basta, non devo spiegartelo, non devo interrogarmi del fatto che potrei essere maschio in un'altra maniera, ed è uno ce l'ho, bellissimo. Poi la relazione tra capitalismo e patriarcato, adesso non mi ricordo esattamente quali sono i nomi dei pensatori, tra l'altro tutti maschi, perché è una filosofia politica creata da maschi che ha messo al centro concetti maschili di controllo, produzione, efficacia, funzionalità, eccetera, per cui c'è sempre dentro quel concetto, in un mondo completamente definito da maschi è ovvio che le donne sono messe da parte, o è ovvio che poi sono maschi a poter governare, perché hanno poi tutto il loro impianto. Adesso non mi ricordo qual era il pensatore che lo diceva, ma essenzialmente il patriarcato permette la creazione del capitalismo nel momento in cui il patriarcato dice a un maschio: devi essere funzionale, devi produrre, vale in base a quanto crei prole o sei capace di avere a che fare con donne, con che poi, diciamola come la dice anche nel libro, scoprirai e farai vedere la tua potenza maschile, per cui la performatività, essere capaci di avere sempre quella funzione che viene richiesta dalla situazione in quel momento, dimostrare la propria forza fisica, mentale, la propria decisione, eccetera. Questo rende poi possibile al maschio costruito in questa maniera di essere perfettamente utilizzato all'interno del capitale, dove devi produrre, essere capace di avere un livello professionale efficace, devi dimostrare di essere all'interno di quel sistema, dimostrare chi sei. Questa cosa qua è che io che lavoro in cantiere un po' si vede il fatto che sei la tua professionalità, sei le capacità che hai. Se non sei capace, allora sei un inutile, allora vali di meno, conti di meno. E non puoi semplicemente essere uno che sta imparando, uno che ha sbagliato, uno semplicemente che lavora in un altro modo. Se non produci, se non sei al livello dei tuoi colleghi, vieni poi appunto nella competitività assurda e stupida, vieni poi fatto fuori o tritato, l'espressione truce che vi piace di più. E quindi la questione di essere sempre funzionali, che poi arriva in un bellissimo paragrafo che è le pene del pene, in cui questa cosa di essere sempre funzionali si traduce nell'aspetto sessuale della cosa. Per cui un maschio non fa sesso per un piacere personale, un maschio non fa sesso per guardarsi dentro e dire cosa mi piace, di cosa ho voglia, di cosa ho bisogno, cosa mi fa stare bene, ma è per dimostrare qualcosa. Nella variante più femminista del caso, per far venire lei e dimostrare che sono capace di far venire lei, ma comunque non si fa per venire noi o per pensare noi cosa che mi piace, quando sento dicendo ma cosa che voglio veramente avere da questa relazione. E altra cosa che obiettivamente è giustissima, non mi ricordo in quale parte dell'introduzione viene detta, non ci sono erezioni naturali. L'unica erezione naturale è quella del mattino, perché giustamente è la vescica gonfia che preme sulla prostata e ti viene un'erezione, ma è solo quella. Come esperta di erezione? Ha visto? Qualcuno ogni tanto mi è capitata, poche. Però la questione è che obiettivamente, cioè, è tutta una questione di testa, è tutta una questione legata al fatto che stai bene con la persona con cui stai, o stai bene la situazione, lo vuoi fare, ed è legato da quello. Non è una cosa da dare per scontata, o meglio, se ci si mette nella forma mentale e ci si viene messi nella forma mentale per cui si deve avere un'erezione, non è, cioè, quella roba lì viene saltata, ma non è vera, non è reale, non è realistica, non è quello che succede davvero, cioè è l'emozione che ti porta a quel momento, il desiderio che hai a fartelo venire duro, come direbbe Mao. Per cui giusto, per cui, cioè, secondo me è una cosa, cioè, sono tutte cose che effettivamente consiglio la lettura ai maschi, perché, cioè, io onestamente proprio una dopo l'altra con le freccette, cioè, cazzo, anche questo, però anche questo, è una roba su cui, cioè, interrogarsi, perché davvero, allora, come si fa a essere maschi meglio, maschi, non è dissenzienti, perché dissenzienti non è italiano, penso. Mamma mia, quelli. No. Vabbè, almeno dei problemi, mi se ne frega. Vai, adesso se puoi rispondere, grazie, no, Daniele, no, grazie mille, ci dici, no, come fare a essere qualcosa. No, no, no, tra l'altro. Sul come fare, cioè, appunto, io proprio concludo dicendo che tra l'altro, sempre ripensando alla questione della guerra, che è drammaticamente attuale, no? E, dicevo, questa idea appunto della guerra come dispositivo di virilizzazione, c'è, cioè, la Carla Lonzi in Sputiamo su Hegel diceva, cioè, una delle più grandi smentite dell'ordine patriarcale è il giovane che rifiuta la guerra, cioè è il disertore, no? E anche, quindi, se poi sarebbe bello riuscire a immaginare di fare la guerra a un sistema che ti tiene, quindi, cioè, poi diventa sempre una cosa un po' complicata, però, cioè, tu dici, se è vero, cioè, che è bello disertare, esatto, è anche bello, cioè, anche bello, anche necessario pensare che ha un conflitto che cambia questa società, non dovrebbe essere disertato, però comunque complicato. Nella guerra, diciamo, tra stati-nazione, insomma, nella guerra fatta dal capitale. Per i padroni combattere non ha senso. Certo. Certo. E contando appunto che una delle propagande appunto culturali, retoriche, che hanno sempre sorretto, cioè quantomeno nella modernità, la guerra, e soprattutto, cioè, nelle guerre moderne, quindi nelle guerre di massa, con un coinvolgimento, cioè, con la leva coatta, no? E era sempre che appunto, cioè, veniva offerta cioè una via preferenziale al virilismo, no? Combattere per la patria, no? E contando poi che la guerra poi è un dispositivo proprio che sappiamo che sempre reazionario poi in termini di erosione dei diritti, di erosione degli spazi democratici, quindi una società patriarcale che fa la guerra si irrigidisce anche nel ruolo femminile, a cascata va ad irrigidire tutti i suoi sistemi di potere, a erodere tutti invece gli spazi di libertà, no? E dicevo questo appunto, io concludo facendo appello appunto a questo, un motto diciamo caro a proprio l'associazione maschile plurale che già prima citavo, che è quello di disertare il patriarcato, no? Di invitare gli uomini a disertare il patriarcato. Era per rispondere a te, cioè dici come fare, cioè proprio io penso che questa diserzione oggi vada in tre direzioni, cioè appunto disertare ovviamente la violenza di genere, ovviamente non nel non praticarla, ma nel disertare quell'omertà che poi no la va quell'omertà o anche quella minimizzazione, no, che sorregge quella che poi le femministe chiamano la cultura dello stupro, no? Che agisce a vari livelli, che passa anche dal non permettere l'educazione di genere nelle scuole, che passa dalla non finanziarizzazione, dal non sostegno economico dei centri antiviolenza, no? Passa da tante pratiche, da tanti discorsi, no? Ecco, quindi disertare l'omertà che è attorno alla questione della violenza di genere, nominarla, denunciarla, quindi disertare in questo senso il ruolo classico maschile, disertare il patriarcato in questo senso, e poi insomma va disertato contro il appunto l'ordine, nei termini del moderno capitalismo, che ha sia la faccia del neoliberale, appunto tu dicevi prima, c'è questa consapevolezza sempre molto, molto intersezionale appunto di come l'archetipo del maschio tradizionale appunto incarna fin da subito elementi fondativi dell'etica capitalista, quindi appunto la produttività, la razionalità anche, no? la competizione, e poi andare a disertare quello che intercetta tutte le peggiori tendenze, tutte le cose più regressive dell'umano, cioè i nuovi nazionalismi, l'involuzione sovranista, no? che poi è la degenerazione dello stesso discorso neoliberale, no? Ci sono notevoli linee di continuità e in termini sempre involutivi, però appunto andare a disertare appunto il nuovo discorso nazionalista, che è un discorso ipervirilistico, no? Tant'è appunto che poi contro la cultura woke, anche le cose che già dicevamo prima, no? Il problema è che il femminismo ha corrotto la società, che la critica al razzismo ha corrotto. Che poi di nuovo essere costretti a essere più maschi, perché ti dicono non sei più maschio di una volta, non sei più quello di prima, quello che dovresti essere, perché non lo sei. Cioè, quindi di nuovo devi avere un'altra prova da superare per essere veramente maschio come dovresti essere, quando invece forse non è il caso più di essere maschio in quella maniera lì. Esatto. E tra l'altro, e questo appunto, le forme di come disertare è una discussione da. Qualcuno in sala voglia di dare. È una discussione sulle pratiche, saranno sempre insomma da vedere. In realtà ho risposto solo una cosa di quella che hai detto. Tornerà dopo, quando sarà il caso, verrà fuori. No, allora, guarda che i temi che hai tirato fuori sono complessi. Come, scusa? Sono complessi. I maschi intendi? Sì. No, perché insomma intanto il tema che c'è, ma poi adesso andiamo oltre al libro, cioè partiamo dal libro e andiamo oltre al libro, perché la relazione capitalismo-patriarcato è stata tanto studiata con tante teorie, anche è stata studiata dalle femministe intanto, non solo in realtà, perché anche Engels ci ha scritto una roba che noi a distanza sappiamo essere molto lacunosa sotto alcuni punti di vista, però insomma La riflessione c'è stata, la riflessione c'è. È chiaro che la relazione del capitalismo al patriarcato è una relazione che va molto situata nel tempo e nella storia, perché è molto intanto ancora oggi è molto difficile capire quando è nato il patriarcato nella forma strutturale, ecco, non nelle forme espressive sociali. Ci sono delle teorie femministe importanti, ci sono delle teorie femministe marxiste importanti, però non riescono a spiegare effettivamente tutto. E soprattutto quello che sappiamo è che il patriarcato è un sistema di potere, intanto va nominato come tale, quindi è un sistema di potere, quindi di gerarchia dei poteri, probabilmente legato al passaggio dal sedentarismo dal nomadismo al sedentarismo, ma probabilmente, nel senso che ci sono degli elementi dell'organizzazione di una società e quindi dell'organizzazione degli individui e delle individui in una società che determinano una gerarchia di potere, quindi chi si occupa di determinate faccende che riguardano tendenzialmente, per schematizzarlo proprio facile, che riguardano la sussistenza della vita in tutte le sue forme e anche la procreazione e la riproduzione della sua vita, ad oggi davvero non è così facilissimo individuare questi punti di contatto. Ci sono dei momenti importanti della storia occidentale, che quindi comunque è una storia anche di colonializzazione, di involuzione, è una storia fatta da religioni monoteiste di un certo livello, nel senso di una certa complessità sociale del loro sviluppo, insomma è molto complessa. Però quello che ad oggi ci è utile, secondo me, sapere e pensare è che sicuramente da metà dell'Ottocento ad oggi vari movimenti, varie realtà politiche su questi temi ci hanno ragionato molto, e ci hanno ragionato vuol dire che c'è chi ci ha lasciato proprio la vita in questo. Quello che noi sappiamo oggi probabilmente è che il capitalismo negli stati ha un capitalismo avanzato, e quindi non, anche qua non in tutti gli stati capitalisti, ma in determinati stati a capitalismo avanzato, la relazione migliore che il patriarcato ha portato è la gerarchizzazione tra i generi, la naturalizzazione dei generi e quindi delle sessualità. Però anche là vediamo che è stato tutto abbastanza, ed è ancora oggi in realtà, molto mutevole, perché ogni sistema di potere ha un obiettivo tendenzialmente, che è quello di mantenersi vivo, perché chi ha il potere vuole continuare a mantenerlo per sé, perché altrimenti non sarebbe un sistema gerarchico di potere. Prima si faceva per esempio riferimento al pinkwashing, o comunque alle politiche del capitalismo che riescono a fare profitto su determinati movimenti sociali, o comunque movimenti di liberazione, movimenti emancipatori. Però sappiamo anche che queste cose cambiano molto velocemente. Lo sapevamo già, ma insomma con l'elezione di Trump è stato paradossalmente più visibile, ma in realtà avevamo anche altri esempi nella storia recente di queste pratiche, cioè i social che cambiano le loro politiche su ciò che è discriminatorio, su ciò che si può scrivere o meno. Fino a ieri erano amici del movimento queer e oggi no. Grosse multinazionali leader nel dipingere di rainbow il loro logo a giugno hanno già deciso che quest'anno questa cosa non accadrà e non sponsorizzeranno i Pride. Il capitale c'ha anche il suo interesse, che è il mantenimento del profitto economico, il mantenimento del rapporto con le strutture culturali, perché anche qua è sempre stato troppo facile pensare all'Olanda come il grande paese libero per gli omosessuali, per la comunità LGBT. È stato sempre troppo facile, perché non è mai stato davvero così, perché un conto è Amsterdam, un conto è il sud dei Paesi Bassi, dove invece abbiamo comunità protestanti e ultraprotestanti che da sempre vietano l'educazione sessuale a scuola, e lo Stato dei Paesi Bassi glielo consente. Poi ad Amsterdam invece c'è il parco giochi per le comunità LGBT, poi per le comunità LGBT non è vero, soprattutto per le comunità omosessuali maschili anche questo. Il patriarcato a un certo punto ha capito, come ogni sistema di potere, che i soggetti coinvolti in questa gerarchia dei poteri cambiano, i soggetti sono costantemente soggetti, scusate il gioco di parole, a mutamenti sociali. Il patriarcato e il capitalismo fanno i conti con i movimenti sociali rivoluzionari, perché li hanno fatti. Il capitalismo ha fatto un grosso conto e ha vinto con il movimento operaio, per esempio, ma lo riconosceva come un movimento fortemente problematico per il proprio interesse, con diverse situazioni. Basti pensare agli anni 60 e 70, che politiche gli stati-nazioni mettevano in campo contro i movimenti rivoluzionari. Pensate al nazismo, che prima di ogni soggetto i primi a essere repressi sono stati socialisti, comunisti, anarchici. Cioè, ci sono tante tensioni interne anche a queste relazioni di potere, che non rendono facilissimo, no, schematizzare tutto in maniera molto, molto facile. E il capitalismo però a sua volta determina dei cambiamenti anche al patriarcato, perché il capitalismo, in nome del ci sono interessanti teorie tendenzialmente di stampo marxista, ovviamente, che descrivono che nell'analizzare le identità omosessuali o maschili o femminili in un'ottica molto binaria, perché sono teorie quasi tutte degli anni 60 e 70, quindi dove ancora il movimento trans, il movimento che oggi chiamiamo trans, queer, non binario, ancora non aveva preso né coscienza e quindi neanche parola, però ci sono alcuni teorici marxisti di quegli anni che nel definire l'omosessualità ne ricostruiscono anche il lato prettamente di costruzione culturale, non per cancellare l'omosessualità dalla storia, ma per dire questa identità omosessuale non è uguale a un'identità omosessuale della Firenze del Cinquecento, e questa omosessualità statunitense, perché poi erano quasi tutti statunitensi, è determinata da un certo tipo di consumo, un certo tipo di stile di vita, un certo tipo di abbigliamento, un certo tipo di attitudine a programmi radiofonici, cioè c'è degli elementi che legavano il tuo essere omosessuale o lesbica a altri fattori della tua vita, tendenzialmente nella scala di sfruttamento, di autosfruttamento, come merce o come colui che la merce la compra, la baratta, la vende, insomma tutto questo. Quindi è tutto molto, molto complesso. Però in tutto ciò delle cose le abbiamo, i movimenti queer, quelli che oggi definiamo movimenti queer, dagli anni 60 in poi ce li hanno un po' spiegate anche abbastanza bene, perché altrimenti sembrerebbe che ci siamo un po' fermati in quegli anni, ma il maschile è molto cambiato, e questo il patriarcato lo sa, il capitalismo anche, e quindi per me per esempio è molto importante rispolverare spesso Foucault. È molto importante rispolverare successivamente tutte le teorie queer dagli anni 90 in poi. È molto importante rispolverare, che non è uscito ancora, quello che è stato dagli anni 80 in poi il movimento lesbico, quindi un movimento di donne che nasceva all'interno dei processi femministi, che però non trovava pieno spazio nei processi femministi, perché era un femminismo eterosessuale, e che quindi è stato costretto a fare uno sforzo intellettivo superiore a quello per trovare un proprio spazio politico. E quindi penso per esempio alla Wittig, penso al femminismo marxista, al femminismo lesbico francese marxista e non solo, anche anarchico, cioè qualcosa ce l'hanno detto e va nominato. Non tanto va nominato il libro figo di Foucault della Wittig, vanno nominati alcuni concetti che oggi in parte le teorie queer riprendono, ma neanche tutte, che pensare una maschilità diversa vuol dire pensare intanto all'eterosessualità, cioè che cos'è l'eterosessualità, non solo maschile in generale, cioè come rapporto tra i generi fondato su una naturalizzazione, come un rapporto tra i generi fondato sull'obiettivo della procreazione, sul rapporto di generi che falsamente ci è stato raccontato come naturale, perché noi sappiamo che anche i sessi in natura sono molto più di due, i sessi biologici prettamente, che sono più di due, e quindi un femminismo, un queer, un pensiero politico, nel dare non dei consigli ma degli strumenti politici di analisi di quello che è il maschile, dicono, e io sono molto d'accordo su questo, nel pensare un maschile diverso non c'è tanto da trovare dei delle maschilità alternative, delle maschilità differenti, cioè da distruggere il sistema dell'eterosessualità, che non vuol dire distruggere l'eterosessualità che noi usiamo come parola per definire un certo tipo di rapporto sessuale, ma c'è da distruggere alle fondamenta quel sistema di produzione, riproduzione, di ordine sociale che è l'eterosessualità, che ha una sua storia, che ha una sua egemonia, che ha un suo legame con non solo con un sistema economico quale quello del capitale, ma con altri sistemi di oppressione e di controllo quale l'imperialismo, per esempio. E l'eterosessualità è un grosso fattore. Anche oggi i movimenti che oggi si occupano di maschilità varie non del tutto mettono in discussione. Perché mettere in discussione l'eterosessualità da parte maschile, perché parlo per il genere a cui sento di appartenere in questo momento, è qualcosa di molto potente, qualcosa che fa paura, qualcosa che fa tremare le gambe, ed è giusto così, perché perché nessuno c'ha mai, cioè, perché il femminismo deve far tremare le gambe, non so come dire, perché se il femminismo non ci fa paura, direi che è molto accomodante quel sistema in sé, no? Se il se i marxismi, i processi rivoluzionari fossero stati fondati su parole pacifiche, non pacifiche di pace, ma pacifiche, cioè tranquille, che non avrebbero fatto paura a società o monarchiche o borghesi secolari, no? Allora, mettere in discussione l'eterosessualità vuol dire mettere in discussione praticamente tutto, ma soprattutto tutta una cultura di costruzione di quel maschile. E anche il maschile meno machista mantiene una struttura culturale, mentale, simbolica legata all'eterosessualità, che non ci libera, non libera i soggetti, ma in generale non libera le persone viventi da alcuni processi fortemente, fortemente violenti. Mettere in discussione l'eterosessualità vuol dire mettere in discussione la sessualità penetrativa, mettere in discussione quello che da Foucault in poi, ma pensate anche Preciado, poi successivamente ha tirato fuori, cioè mettere in discussione il tabù del sesso anale, mettere in discussione il concetto stesso del buco del culo come qualcosa di che la storia ci ha insegnato essere da utilizzare solo in un certo modo, vuol dire mettere in discussione l'affettività, vuol dire mettere in discussione anche i rapporti con le donne all'interno della propria di famiglia, di origine intendo. Oggi, 2025, vuol dire per esempio mettere in discussione il termine stesso di maschio, di uomo, no? Che cos'è un uomo, chi è l'uomo, quali sono gli uomini oggi. Noi sappiamo, sappiamo esistere uomini con la vagina, sappiamo esistere altri tipi di maschilità. È chiaro che in questo libro questo non può esserci perché è del 77, però dato che sono passati 50 anni è giusto, no, tirar fuori anche tutto quello che i movimenti sociali e rivoluzionari e queer e femministi e transfemministi ci consegnano. E l'eterosessualità è un ordine non solo simbolico, perché tra le altre uno dei limiti del femminismo della differenza secondo me è stato anche molto rimarcare il simbolico, perché il simbolo è qualcosa di lontano che è importante, perché invece l'ordine simbolico ha una sua importanza, sono d'accordo, però poi esiste anche un ordine materiale delle cose che non è solo simbolo o astratto, ma è un ordine reale di potere violento, ma anche non violento, ma sempre di potere che è il solito coercitivo, coercitivo, esatto, ecco, e l'eterosessualità in questo, tant'è che l'ondata neofascista integralista che noi viviamo oggi ha delle parole d'ordine molto forti che ancora del tutto non si sono, diciamo, chiarite secondo me nell'ambito delle politiche nazionali, perché insomma io penso che molti di noi un po' temono quello che sta succedendo, soprattutto perché c'è qualcosa che possiamo immaginare ma che ancora non è successo, quindi adesso vediamo che cosa fanno, un'idea ce l'abbiamo, però vediamo che cosa, probabilmente che cosa faranno. Però il modello di virilità, il modello di maschile, il modello di donne, anche il modello di omosessualità che tirano fuori, perché non la cancellano del tutto l'omosessualità, hanno dei modelli precisi di omosessualità, sono dei modelli fortemente eterosessuali, eterosessuali, normati, È quella roba lì. Quindi mettere in discussione oggi il maschile vuol dire riprendere tutto quello che poi dall'82 in poi è uscito da questi ambienti, perché poi non è che è uscito da, cioè è uscito da questi ambienti. L'eterosessualità è uno degli elementi che va messa in discussione come ordine gerarchico, perché ti consente anche di approcciare alle altre persone, agli altri generi in una maniera completamente differente, perché è la tua postura, no, che cambia nei confronti delle altre persone. Lo fece molto bene la Wittig, lo fece bene il femminismo marxista, lo fa oggi Federico Zappino in università, tant'è che c'è un'interrogazione parlamentare, cioè in Parlamento discutono se chiudere o meno il corso di studi di Federico Zappino, cioè di una persona, questo per capire che cos'è quell'ordine che si mette in discussione, e probabilmente glielo chiuderanno, ce la faranno. Aggiungo una cosa e poi la smetto. Sì, sì, poi te la passo. L'altra cosa interessante, quasi il libro c'entra, ma questo forse è riuscito anche a Verona, non mi ricordo. Al di là del titolo, o meglio, al di là del sottotitolo, ma anche al di là del titolo che può piacere o meno, oppure come potremmo rintitolarlo oggi, secondo me una cosa importante di tutti questi contributi è la postura nei confronti del femminismo, che può essere anche cioè può essere anche problematizzata, discussa, soprattutto in luce di quello che è il femminismo oggi, no? Che è un femminismo transfemminista, includente, intersezionale, ma nessuno di questi uomini si interroga se chiamarsi femminista o meno. Cosa che invece negli ultimi anni gli uomini tentano, cioè io sono un uomo femminista, un uomo può essere femminista, si può essere... Questa è un'ottima postura, che è semplicemente quella di fare un passo indietro, perché il femminismo appartiene alle donne, sono le donne che si definiscono femministe, il che non vuol dire che il femminismo è utile anche ad altri soggetti che non si rientrano nel genere femminile. Ce l'hanno fatta nel 77, invece oggi ci abbiamo compagni anche nei nostri movimenti che si interrogano se possono chiamarsi femministi o meno. Non è quello il tema, cioè non è proprio il riappropriarsi di un termine come quello e quindi di tutto quel portato. E questo perché lo dico? Perché è molto utile nella, nella decostruzione del maschile di oggi. Cioè non è tanto appropriarsi di nomi, concetti, simboli, storie di altri soggetti che vengono da esperienze oppressive e discriminatorie di altro tipo. Lo fa anche una... Molte persone eterosessuali oggi si definiscono queer nel loro essere vicini ai movimenti queer, che è molto importante perché vuol dire che il movimento queer è riuscito a parlare anche oltre alle proprie, oltre rispetto alla propria comunità. Ma il definirsi queer che cosa significa? Significa che rimani nella tua monogamia eterosessuale, riproduttiva, con un ordine importante, non apri più la porta alle donne perché quello è maschilismo, però se la tua compagna, la tua moglie, la tua fidanzata fa una determinata questione che a te non piace, allora alzi la voce allo cioè non è il termine in sé, non è riappropriarsi di certe cose, è comprenderne probabilmente, secondo me, il portato più profondo, che vuol dire in questo caso dei termini fare un passo indietro, perché non compete agli uomini cis eterosessuali e secondo me neanche omosessuali oggi interrogarsi se siamo, se possiamo definirci femministi o meno, ma piuttosto lasciare spazio alle persone che vengono da quella storia e lasciare spazio a quelle persone di definirci in relazione, no, a quella storia. Ce l'hanno fatta nel 77, non ce la stanno a fare i compagni nostri negli ultimi anni, che devono dibattere se possono chiamarsi femministi o meno, no? Che è come se quel termine, quell'etichetta sia così importante o meno, quando forse è più il contenuto. L'eterosessualità, che è un sistema complesso, ha una sua storia. L'eterosessualità, come tutte le storie, come tutte le gerarchie di potere, tende anche oggi a difendere il proprio status gerarchico e di potere. Un'altra maschilità, altre maschilità al plurale più ampio possibile, nascono, secondo me, da una decostruzione totale dell'eterosessualità. Non uso il termine eteronormatività perché sarebbe un po' troppo accomodante, perché ci allontana un po' dai soggetti eterosessuali. Non è solo la norma eterosessuale il problema, è l'eterosessualità come sistema di produzione, riproduzione e controllo della vita tutta, che va messa in discussione, secondo me, per pensare, praticare, farsi contaminare da maschili, maschilità, generi, ultrageneri, completamente diversi da quello che conosciamo probabilmente. Allora, mi sono segnata un pochino di cose, però sarò super sintetica. Partendo dal titolo, anch'io mi ero posta la questione di l'antimaschio, che messaggio desse, perché mi sono accorta pubblicizzando questa presentazione che dava idee differenti dalle persone alle quali presentavo il titolo del libro. Secondo me manca un verbo, che poi in realtà il verbo che rappresenta un'azione nella sintassi manca nel cambiamento che io oggi non vedo. Nel senso, mi spiego, leggendo questi testi da donna eterosessuale femminista, la cosa che fa scendere le palle a terra è che non è cambiato molto, è cambiato molto di più quello che dicevi tu, cioè nelle lotte queer, transgender, eccetera eccetera, ma se vedo le paure dei maschi etero del 2025 non vedo molte differenze da quelli degli anni 70. Quindi mi domando, Gramsci direbbe, ma sto tempo quanto dura tra la crisi e l'azione, quanto ci vogliamo mettere? Ed è veramente raccapricciante. In secondo luogo, il capitalismo non lo vivono solo gli uomini etero, lo vivono anche le donne. Perché le donne non hanno il bisogno di imporre il loro potere su un altro sesso nella loro eteronormalità o eterosessualità? Cioè, nel rapporto fra capitalismo e patriarcato, mi domando, il capitalismo non lo vivono solo gli uomini, e quindi non lo vivono solo... cioè, non è un fenomeno che tocca solo una sessualità. E mi domando perché invece sia così impattante nel rapporto che l'uomo deve avere con i suoi pari, deve avere con i suoi pari di sesso, pari di livello sociale. Cioè, non mi spiego perché tutti questi esempi che vengono dati nel libro, quindi dinamiche di competizione, che come nel capitalismo le ha l'uomo nel patriarcato, cioè mi sembra che ci sia un po' troppo, nonostante sia molto piacevole vedere che questi uomini si svegliano e dicano devo fare qualcosa, però mi sembra che si piangano anche un po' addosso, cioè su delle dinamiche che in realtà investono tutti, non investono solo gli uomini. Quindi quello è un limite che trovo nel libro, come ne parlavamo prima, un limite che trovo è che si parla di patriarcato in generale, ma ci sono infinite forme di patriarcato, quindi ne capisci le sfumature, perché ognuno poi loro hanno una dimensione molto soggettiva, no? Nello spiegare di quale tipo di patriarcato risentono, però secondo me nell'introduzione poteva essere uno spunto interessante. E ultima cosa che mi ero segnata, ah no, io invece non sono d'accordo con te, secondo me, cioè io mi auspico un femminismo che faccia gioire, che non faccia paura, e mi auspico un uomo che sia omosessuale, transessuale, eterosessuale, quello che si definisce femminista con la totale naturalezza con cui una donna si definisca femminista, come se fosse il cielo azzurro, cioè non rendendola così problematizzata sentendo una privazione del proprio potere, ma vivendola con gioia, non con paura, non con timore, non con dover fare il passo indietro, cioè voglio il passo avanti dal sesso maschile, non voglio il passo indietro. Basta. No, però la domanda c'è. Se non lo fai con il microfono, però cioè, è nato 20 minuti, ti registro. Cioè, rispetto a quella frase di Gramsci, oggi dove ci collochiamo rispetto a quello che leggiamo in questi testi, che ovviamente sono di una determinate aree geografiche, un periodo storico, oggi che abbiamo un altro tipo di capitalismo, quindi molto più avanzato, a che punto siamo in questa presa di coscienza? Perché io onestamente non vedo differenze, cioè tra quello che leggo qui e quello che leggo sui giornali, quello che sento dire dal collega, quello che vedo nelle dinamiche di lavoro, io non vedo assolutamente differenze. Patto io e poi ti passo. Okay, così. No, io vado molto veloce. No, sul femminismo. Sul femminismo che fa paura, chiaro, una provocazione, non perché penso che le teorie di liberazione debbano fare paura, perché sennò manca appunto la parte appunto di liberazione, che tendenzialmente è una parte bella, perché se ti liberi. No, dico, le parole d'ordine di questi movimenti sono parole d'ordine che devono far tremare, perché altrimenti ancora, perché probabilmente ancora ce n'è bisogno. Credo anche, cioè, perché sennò il tema è che secondo me l'8 marzo, ancora una volta, tenere lo striscione di apertura, ci saranno uomini che, dato che succede ogni anno, poi le compagne li allontanano per dire no, questo è il corteo delle compagne, lo apriamo noi, è semplicemente pensare la giusta relazione in una fase di un certo tipo, perché poi anche là dipende in che anni sei, in che contesto sei. Ci sono alcuni processi che sono portati avanti, perché lo sappiamo, dai soggetti coinvolti nei processi di discriminazione, motivo per il quale io trovo assurdo che il Pride di Milano venga aperto con lo striscione con il sindaco di Milano, perché lo trovo fuori luogo, perché tra l'altro è un sindaco eterosessuale, perché quella è una marcia, corteo, festa, quello che vogliamo chiamare, uguale, quello di Milano, non in generale, quello di Milano, è quello che ha una sua storia, che non è finita ancora, perché ancora non c'è quella liberazione là, e noi lo sappiamo, perché altrimenti non faremmo più il Pride, no? Poi è chiaro, lì c'è un simbolo politico che decide di stare vicino e quindi c'ha le sue motivazioni. Tra le altre, paura e gioia, secondo me, stanno molto legati tra loro. Sono principi, pulsioni molto vicine. Il sesso è gioioso e il sesso fa paura. La prima volta che si fa sesso si piange spesso. Eppure è bellissimo. Però no, è tremendo. Cioè, è tutto insieme. Quindi, insomma, ci sono degli legami di pulsione molto... molto molto vicini, probabilmente. No, sul definirsi femministi, è la mia opinione, diciamo, è anche la mia esperienza, nel senso che non dico io il femminismo assolutamente, però è una cosa molto specifica su un dibattito che spesso accompagna, quasi, cioè un po' ciclico, no? di compagni, il che vuol dire di soggetti alleati alle cause di liberazione, perché non lo so nei congressi del Partito Democratico cosa si dicono su questo, quindi. Però ecco, in questi processi l'appropriazione di un termine secondo me diventa problematica quando svela la facilità di appropriarsi di un termine senza essersi messi in discussione, quindi senza esserci stato un'appropriazione dei contenuti di quel termine. Ok, quello sì, certo. Sì, no, il problema oggi, quindi oggi no, ciclicamente, no, questi compagni che dicono io mi dichiaro femminista, sì, bene, no, è la pratica poi che lo determina. E quindi io ho trovato sempre poco utile passare ore e ore di discussione se gli uomini possono definirsi femministi, perché perdiamo tempo in una definizione. Esatto, no, in un farlo e non in un praticarlo. Però ne sottolineo l'importanza, perché comunque quello è un termine politico che viene da esperienze politiche precise. E allora, in maniera, ma sì, anche provocatoria, te lo dico, e ti dico: guarda, cioè, siamo sempre noi uomini che dobbiamo andare là a dire a questo termine, quindi quell'esperienza è molto bella, lo siamo anche noi. Sì, beh, ok, ma chi se ne frega nei termini, no, linguistici, vediamo nella pratica che cosa vuol dire, che cosa si è messo davvero in discussione, perché poi spesso si vede che non si è messo in discussione nulla. Non si è messo in discussione nulla. Poi anche là non penso che sia non penso che siano le realtà politiche a dire tu hai messo in discussione e tu no, perché poi c'è anche tutto, c'è un portato personale, una storia personale, quindi ci sono, no, tanti elementi. Però sicuramente è troppo facile solo giocare sui termini come etichette politiche, quindi siamo antirazzisti, siamo antifascisti, siamo anche femministi. Boh, sì, vediamo, no? nella realtà, nei rapporti tra compagni e compagni, nei rapporti tra i generi, nei rapporti con le persone con cui hai relazioni sessuali o affettive, che cos'è questo femminismo? Era tendenzialmente quello che... E poi un'altra cosa che hai detto, che secondo me è molto interessante, è vero, non è cambiato niente, cioè a leggere queste cose non è cambiato niente. Penso che il patriarcato a cui loro si riferiscono sia un patriarcato molto situato, cioè il patriarcato degli Stati Uniti di quegli anni, della Germania e dell'Italia, che comunque poi al suo interno ha molte differenze, perché pensa all'Italia degli anni 70, che cos'è il patriarcato, ma banalmente della Lombardia o comunque di un'area geografica che vive processi di iper... Cambia il patriarcato perché cambia, come dicevamo, no? Cioè cambia la... Eh sì, cioè cambia la volontà di mantenersi vivo, di mantenersi, di mantenersi efficace. Non voglio aprire questo dibattito, poi ti passo il microfono, però è super significativo perché per me è l'emblema di tutte le relazioni che esistono. Ma se si pensa al sex work o anche alla storia della prostituzione, per esempio... Cioè noi non ci rendiamo conto che fino agli anni 50-60 era abbastanza usuale che il padre di famiglia portasse il figlio maschio in una casa chiusa, perché la prima esperienza sessuale, che tendenzialmente è un disastro, la doveva fare con una professionista. Sì, una sex worker, diremmo oggi, pagava il papà, lo portava, lo accompagnava, e era un processo anche molto simbolico nelle sue forme, no? Di crescita, di adesso diventi un uomo dopo questa cosa qua. Tu pensa, cioè prova a pensare, e sono passati pochi anni, cioè rispetto, no, allo sviluppo dei sistemi gerarchici o di potere, passati pochissimi anni, tu pensa invece ad oggi qual è la discussione sul sex work in questo paese, anche in relazione alla costruzione del vero maschio. Se il vero maschio non paga, paga, c'è stato il cinepanettone che ha sdoganato che i maschi pagano e chi se ne frega, tanto si può pagare, ti porti a casa quello che vuoi divertirti, eccetera. Come l'importante è che tu godi, quindi ti porti a casa quello. C'è chi vuole riaprire i casino, le case chiuse, come le vogliono chiamare, c'è chi stigmatizza invece il lavoro sessuale, ma sicuramente credo che un'altissima percentuale di nuclei familiari di questo paese in questo momento storico, se una figlia, uso il femminile volutamente, dice a papà io voglio fare la sex worker, è un disastro, è un grosso disastro, cioè è la fine di tutto, perché il patriarcato cambia, perché il patriarcato è quella roba lì. Pensa ai femminielli napoletani, che sono una delle cose più interessanti di questo paese. I femminielli napoletani fino a prima della guerra venivano pagati da famiglie nobili per fare da tate ai bambini, perché i bambini dovevano vedere che esistono questi travestiti e che non bisogna diventare come loro. Non bisogna proprio diventare. E il papà, i nobili li pagavano per stare in casa, anche perché tanto se il marito sta fuori e in casa c'è il femminile non succede niente con la moglie, no? Poi abbiamo delle lettere invece in cui ci raccontano che invece succedevano delle relazioni queer molto interessanti, diremmo. Però è vero, il patriarcato cambia in forme assurde, e anche parallelamente nei diversi contesti può cambiare, perché ce l'abbiamo sotto gli occhi, tra le altre. Cioè. Non aggiungo altro alle cose che dicevi tu, Mauro. Dico, rispetto alla questione della non è cambiato niente, no? E Segre finiva la sua introduzione dicendo: mi auguro che questo libro sia un sasso nello stagno, e mi auguro che le prossime onde, insomma, vengano alimentate, prodotte magari dagli altri libri, ma soprattutto dall'esperienza vissuta. Lui dice questo, io parto un po' da lì, no? Introdurre il libro, una nuova edizione di cosa. Insomma, effettivamente un sasso è stato lanciato, tante cose sono successe, tanti, insomma, i gruppi anche di non solo i gruppi di autocoscienza maschile, ma la partecipazione maschile al femminismo è effettivamente cresciuta molto, non una di meno. Da questo punto di vista è stato un movimento importantissimo, tra l'altro anche rispetto ad una critica all'eteronorma, no? Penso alla risignificazione dell'8 marzo come lo sciopero dagli stereotipi di genere, no? È assolutamente pertinente, penso che vada, no, nella direzione delle cose di cui stiamo dicendo stasera, ecco. e appunto perché c'è critica all'eteronorma, nel senso di critica anche un modo normativo di concepire l'eterosessualità, esatto, un nome univoco e specifico di essere eterosessuali, no? Invece aprire all'eterosessualità, modi alternativi di vivere la propria eterosessualità. E ecco, tante cose sono successe, poi dico chiaro, poi siamo di fronte alla recrudescenza della violenza di genere, siamo di fronte a delle destre sempre più potenti, sempre più al potere, sempre più virilizzanti, antifemministe, e quindi effettivamente appunto c'è, ecco lì il patriarcato che è in crisi ma non muore, e anzi proprio anzi si paranoicizza, no? Nel senso, quando nascono i mostri, cioè queste risposte diciamo così conservative spesso sono proprio paranoicizzanti, no? Tant'è vero che la destra radicale paranoicizza le lobby omosessuali, no? La femminilizzazione, i neofascisti pensano che la femminilizzazione dell'Occidente sia un elemento fondativo dello scacco e della perdita di egemonia dell'Occidente rispetto al Medio Oriente o all'Estremo Oriente, no? La femminizzazione delle nostre società, no? Quindi proprio si va nel paranoico. E però ecco, cioè è vero, cioè non cioè secondo me si apre questa tendenza, secondo me la partita, cioè, mi spiace pensare che tu abbia ragione in un certo senso, per me la vabbè, ma comunque no, che viene molto spesso evidenziato col femminile, no? Molto spesso in questi scritti si parla del rapporto del maschile col femminile, mm-hmm. e lì dici che non è, non lo so, tant'è vero che una persona che frequenta movimenti dovrebbe andare a essere, diciamo, già secondo me, avanti su determinate passi, dice io non, io non sono così pessimista. Colpa mia, Daniele, colpa no, mia. Però no, ma figurati, nel senso, cioè in realtà è una critica mica tanto critica, nel senso che è ancora più urgente fare un'operazione editoriale come questa, quindi non la prendo assolutamente come critica, cioè. Però ecco, io sinceramente non sono così pessimista, cioè io penso comunque che cioè appunto ci sia questa, diciamo, noi abbiamo a che fare quotidianamente con notizie appunto di stupri, di femminicidi, proprio perché c'è un'affermazione proprio, cioè perché ci sono sempre più denunce, e se le donne denunciano sempre di più è proprio perché c'è una spinta sociale, anche di protezione, penso alle pratiche femministe degli sportelli antiviolenza autogestiti che supportano, no? E non solo, poi anche l'associazionismo più istituzionale, che comunque è permeabile poi alle istanze dei movimenti, sono, diciamo, conquiste dei movimenti, no? E poi io penso comunque che nei rapporti interpersonali, cioè io penso che uomini che praticano femminismo, perdendo più o meno tempo su discuterne se lo sono o meno, però comunque io penso che sia un'acquisizione, io non la vedo così, cioè, e appunto a partire appunto dal numero delle denunce, cioè che appunto che c'è una forza appunto sociale, culturale, politica che appunto che attraversa la società e che consente questa rottura dell'omertà, e c'è appunto, secondo me, l'esperienza in una di meno da questo punto di vista appunto davvero è significativa per un coinvolgimento, non protagonismo perché sarebbe problematico, ma un coinvolgimento maschile nel discorso femminista. E poi ecco, un altro elemento, poi posso essere ingenuo, però se io noto una cosa, che in una fase di grandissima spoliticizzazione due sono le cose che muovono i giovanissimi, cioè le questioni di genere e le questioni ambientali, queste che sono entrambe, appunto per come sappiamo, questioni che intrecciano profondamente la critica al capitalismo, no? E in questo e secondo me è significativo che su due questioni così fondamentali, strutturali della società, comunque effettivamente con mille contraddizioni, con insomma anche se vogliamo forme molto spurie di spoliticizzazione, che però sono anche molto interessanti, e cioè le nuove generazioni proprio si mobilitano su queste cose, no? E quindi questo secondo me è un grande campanello di che qualcosa può ancora succedere, cioè un grande, diciamo, che questa diciamo questa conflittualità, questa dialettica tra il vecchio che si ostina a non morire, anzi si rinvigorisce da colpi di coda, no? E invece il nuovo che cerca di farsi spazio, comunque ci sono spinte, no? E per quanto riguarda, appunto, dicevo, le questioni di genere, le questioni ambientali che intrecciano il capitalismo, per quanto riguarda la questione che tu dicevi, cioè che le donne sono vittime del capitalismo, ma assolutamente sì, ma io non qui c'è proprio l'idea che l'incoscienza maschile, anche per tornare alla tua ultima domanda, cioè è proprio che il dividendo patriarcale o la carota del potere maschile è appunto un dispositivo di asseffazione e di distrazione proprio, cioè solo l'incoscienza maschile, cioè solo il fatto di appunto essere incoscienti, pensare che appunto sia un ordine naturale così, ti permette al maschio medio, al maschio complice, di godere di quel dividendo patriarcale, di non rendersi conto che intanto è assolutamente disequilibrato nella sua distribuzione, cioè i maschi egemoni, i maschi esemplari hanno fette di torta molto più ampie, tu ti prendi una piccola fettina di torta e tutta quella, cioè, è tutto un disinnescare il potenziale dirompente rivoluzionario secondo Segre proprio contro il capitalismo, no? In un'ottica per cui appunto, cioè, non ti rendi conto intanto appunto che il dividendo patriarcale non è equo nella sua suddivisione, ma poi che comunque quel dividendo patriarcale è a spese di altre linee di oppressione, no? Cioè le donne sono represse due volte, cioè hanno la doppia repressione al capitalismo quanto gli uomini, ma poi hanno la repressione del lavoro riproduttivo, del lavoro di cura, della violenza maschile, no? E la linea della razza, cioè il maschio, un operaio nero, ma sono sicuro non devo spiegarlo, però cioè, è oppresso dal capitale, e poi ha la linea di razza, no? Una donna ne ha sempre una di più, no? Una donna nera ne ha una di più, e in questo senso appunto la riflessione secondo me già qui dentro non è criticabile in questo senso, cioè loro dicono io non critico la riflessione, critico una stasi, nel senso che mi fa molto che siamo ancora lì. Invece penso che essendo uscita la donna dal focolare domestico si sia amplificato il modo di essere, perché il femminicidio è la punta dell'iceberg. Uscendo la donna dalle quattro mura, la discriminazione si espande in infiniti canali possibili e immaginabili. Mi spiace dirlo, ma solo una donna può sapere quante volte in una giornata questa cosa accade. Quindi questo mi dimostra purtroppo che da quello che leggo degli anni 70, sì, la lotta è andata avanti, sì, siamo andati avanti sul concetto del binario, non binario, trans, gen, tutto quello che vuoi tu. Sicuramente in un'epoca storica che non è politicizzata oggi come lo era ieri, ma che vede due battaglie fondamentali, io da donna ti dico che leggendo questo testo leggo le stesse problematiche e mi fa molto pensare. Sì, beh, certo. No, sono d'accordo. Prego, se qualcuno vuole aggiungere qualcosa, è il momento giusto. Prego. Telegraficamente, il problema della violenza, anzi non della violenza, della guerra, ecco, è stato trattato in maniera un po' così veloce, l'obiettore di coscienza che si oppone al patriarcato, eccetera, eccetera. Però in realtà io vorrei chiederti, Daniele, se secondo te non è la guerra che produce l'archetipo maschile, che produce il maschio tossico, diciamo. Non soltanto la guerra tra stati, ma proprio la pratica della violenza organizzata. E non soltanto la pratica della violenza organizzata in atto, ma anche quella potenziale, quella raccontata, quella che potrebbe succedere domani e che circola tra di noi. Ecco. No, beh. Certo. Ah. Prego, vuoi fare. Rispondere. Come dite voi, come vai, vai, subito. Vai, rispondo subito. Vai, vai, ok. Vai, vai. No, allora se sulla questione c'è cioè, se è la guerra che crea l'archetipo maschile o se allora io penso di cioè sì, anche perché voglio dire le istanze più conservatrici, cioè io penso facendo un riferimento a quel testo davvero, davvero molto bello che è l'invenzione della virilità, no? E poi è incentrato soprattutto su storia italiana, c'è una tutta una riflessione sul ventennio fascista come il ventennio virile, no? Proprio. E lì voglio dire tutta la ripresa della storia romana, cioè tutta la ripresa diciamo fascista del legionario romano, tutto quell'immaginario, cioè nel senso lì è proprio l'archetipo della guerra che crea l'archetipo maschile, no? Cioè lì evidentemente la parte del disciplinamento, sì sì. Sì, ma cioè, sì, sì, ma adesso non so se cioè, c'è quell'archetipo senza disciplinamento, cioè, nel senso mi sembra che sia tutto, cioè, mi sembra un pacchetto, diciamo così, in cui non si può prendere, cioè, la questione del disciplinamento, della sottomissione, che poi è implicata in qualunque violenza organizzata, e su questo sono perfettamente d'accordo. E c'è sicuramente sì, forma il prototipo maschile e poi lo alimenta entrando in un gioco per cui voglio dire a distanza poi degli archetipi fondativi, ne so, il legionario romano, lì poi entriamo un po' nell'uovo nella gallina a un certo punto, no? Cioè chi è nato prima, nel senso che poi finisce in una una cosa che si autoalimenta, no? Cioè oggi c'è un rilancio del virilismo a vari livelli, sicuramente implicato anche nel rilancio della guerra come normale strumento di soluzione delle controversie, ha a che fare sicuramente con la penso anche rispetto appunto a recenti dibattiti come venisse, insomma chi ha posizioni pacifiste venga accusato di vigliaccheria, no? E la vigliaccheria è un'accusa fortemente connotata dal punto di vista, cioè sei vigliacco, non sei l'uomo virile non è vigliacco, no? Ecco, cioè la vigliaccheria vuol dire non essere coraggiosi, non essere uomini, no? Cioè non essere virili, appunto, in questo senso. La guerra è un dispositivo, sì, comunque pensando se definiamo la guerra come un e la violenza organizzata, io sono d'accordo nell'ampliare questa cosa, questo campo diciamo di influenza, è un dispositivo virilistico e virilizzante, cioè è un dispositivo di virilizzazione della società, è chiaro che è proprio quello che crea il virilismo e poi il virilismo alimenta queste pratiche, queste dinamiche. E io penso che poi rispetto alla questione è vero, è molto facile vederlo, distinguerlo appunto per quanto riguarda gli eserciti regolari, gli stati nazione, quelle pratiche, e sulla questione della violenza organizzata anche degli oppressi diciamo che quando si fa la critica appunto anche ai movimenti di riprodurre dinamiche virilistiche, dinamiche maschili al loro interno, c'è sicuramente anche quell'elemento lì, cioè il fatto di io individuo tre linee di argomento principale dei testi. Una di queste è l'identificazione, poi qua volendo si potrebbe parlare di Arendt, ma non lo facciamo più a questo punto, però comunque c'è l'identificazione tra la maschilità e il potere, e il potere sempre, cioè, quindi anche poi nelle dinamiche, diciamo, rivoluzionarie che ambiscono appunto alla presa del potere tradizionale, c'è questa equazione di maschilità e potere, no? C'è questa identificazione tra la maschilità e potere. E infine il potere, appunto, che è alla fine esercizio della violenza, monopolio dei mezzi della violenza, no? E quindi anche da questo punto di vista per me assolutamente sì, cioè, appunto, cioè in questa dinamica per cui si attribuisce al potere, cioè, un carattere maschile, e la maschilità coincide con il potere, e anche perché appunto la maschilità coincide con l'esercizio della violenza. E anche nelle sue, insomma, nelle risposte rivoluzionarie classiche prefiggevano l'obiettivo appunto della presa del potere senza mettere a critica appunto questo elemento di come identifichiamo il potere. Questo l'hai accennato prima anche tu, una cosa che appunto è che cioè la filosofia politica che cerca di definire il potere e anche di teorizzare la sua legittimità, no, come legittimare il potere, è profondamente maschile, no? Adesso voglio dire, il fatto che il potere è singolare maschile, non so se sono riuscito a risponderti, però ecco, io cioè, per dire semplicemente, sono d'accordo che c'è appunto un rapporto proprio strutturale tra la maschilità e il potere inteso come organizzazione della violenza e gestione della violenza, sia in termini di stati nazionali che in termini dal basso, diciamo. Cioè, se non c'è una riflessione seria su questo. Prego, Vito. Bene. Innanzitutto grazie che state dando voce a chi ha vissuto esperienze individuali e collettive degli anni 70. Quindi veramente un grazie, continuate. Però vorrei dire, io sono molto pessimista. Sono d'accordo con le affermazioni fatte dalla precedente amica, compagna, conoscente. Faccio riferimento all'attualità, non vado a scomodare Gramsci. Allora, nelle elezioni politiche in Germania la maggior parte dei voti fatti dai giovani maschi sono andati tutti ai neonazisti e comunque alla destra, che hanno una leader donna lesbica. Quelle sono contraddizioni interne loro. Guarda caso, la maggior parte delle donne hanno votato Linke. Non è un dato che ho dato io, è un dato che ho ricevuto proprio ieri. Altra situazione, sempre ieri, l'INPS, che guarda caso non ha soltanto una gestione politica di uomini, ma è una struttura laica, comunque una struttura maschile. Proprio ieri l'INPS addirittura si sta spaventando per i dati che avvengono rispetto alle discriminazioni fra uomini e donne. Stipendi 22% in meno e a livello pensionistico addirittura al 44%. Quindi che cosa significa per me? Che la situazione economica delle donne, che non hanno l'autonomia economica per avere quella forza, non è soltanto la questione economica. Per quanto riguarda la violenza di genere, c'è di mezzo la sessualità, c'è il corpo, ci sono tutta una serie di fattori. Però iniziamo a parlare già di questi dati qua. La condizione economica delle donne, più oppresse di così, non vedo quale cambiamento ci sia fra gli anni 70 e adesso. Io addirittura vedo un peggioramento, perché sono passati 40 anni, però la situazione, se non è peggiorata, è la stessa, quindi è peggio, non va bene. Ma anche il comportamento che viene riservato negli ambienti lavorativi alle donne e agli uomini, quindi non solo quello che mi arriva nella tasca, ma quello che ogni giorno devo vivere nel vedere un diverso approccio, un diverso comportamento. Quindi non è che mi fa piacere essere pessimista, ma purtroppo lo vivo. Prego. Ok, sì, arrivavo anche a questo tipo di atteggiamento, comportamento nel mondo del lavoro, che si sa. Guarda caso, così, notizie di cronaca, stamattina hanno arrestato un allenatore di una squadra di pallavolo, di ragazzine che sono state violentate nel giro di un anno e mezzo. Quindi, fra la cronaca e le questioni politiche, economiche, vedo che le discriminazioni sono ad alti livello. Mi fa piacere che hai menzionato lotta continua e re nudo. È vero, dobbiamo rivoluzionare i rivoluzionari. Su questo va bene. Dal punto di vista della sessualità, solo gli omosessuali spingono a ribaltare un modo di vivere il proprio corpo e la propria sessualità. Ma qual è la condizione degli eterosessuali? Lo sappiamo? Come vivono le eterosessualità i ragazzi, gli uomini oggi? Non lo sappiamo. E questo mi lascia un po' perplesso. E gli omosessuali invece ne parlano ad alta voce. E poi c'è anche un altro aspetto: il vissuto. Ci sono pochissimi gruppi di aggregazione, non siamo più negli anni 70, e quei piccole realtà di aggregazione sono veramente ai minimi termini, e questo significa che si ha difficoltà a far sì che questi diventino dei movimenti addirittura. Quindi anche là bisogna riflettere su quale potrebbe essere l'antimaschio oggi. Sono pessimista. Dobbiamo lavorare tanto, considerando che comunque i processi di maturazione sono lunghissimi, ma questo ci deve anche far sì che dobbiamo accelerare assolutamente l'andare avanti contro tutte le forme di patriarcato. Bene, direi che abbiamo preso tutti e tutte per stanchezza. Prego, vai Mauro. Dopo Mauro, magari la chiudiamo. Sì, Mauro, avanti altre 6 ore. Vabbè. No, adesso la faccio rapida, perché non so come si chiama il compagno. Vitto. Prima sessione, poi 15 prima minuti, sessione, poi seconda sessione. No, io non lo so, cioè nel senso, sul pessimismo e l'ottimismo non lo so, io... Però... un sacco di cose sono uscite adesso qua, però vado veloce. La prima è, allora, sui dati delle votazioni io sarei solo attento, perché spesso poi risultano essere poco chiari, perché bisogna sempre capire chi ha fatto quelle statistiche, perché la stessa cosa è molto probabile che i giovani abbiano votato a destra, è vero. No, sì, però poi sulla stessa cosa si era vista. La stessa cosa era uscita un po' di anni fa per l'Olanda, dove una grossa fetta di giovani, anche LGBT, i dati ufficiali dello Stato li portava a destra. Si è scoperto poi che erano dati fondati su meccanismi di lettura completamente sballati. Però non importa il numero in sé, è la tendenza che è evidente. La tendenza c'è, sì. No, l'unica roba, dato che tendenzialmente siamo verso il pessimismo cosmico e speriamo che l'asteroide nel 34 la colpisca in piena la Terra, però bisogna dare il giusto valore. Per esempio andrebbero confrontati sul livello di astensionismo. Cioè quanti giovani di quella fascia di età non hanno votato, quanti hanno votato e quanti di questi hanno votato a destra. No, sì, però ci sono, è indicativo sicuramente, bisogna vedere un po' il tutto poi. Allora, Io non lo so se siamo andati tanto avanti o indietro, però alcune cose sono cambiate perché i movimenti e le conquiste ci sono state, e non mi pare pochissimo, però non lo dico perché sono ottimista, lo dico solo per dare merito anche ai movimenti sociali, ai movimenti delle compagne in particolare, perché fino alla riforma dello stato di famiglia, che è una cosa molto recente, nel senso che è degli anni 70, insomma, una donna da sola, single, non sposata, per aprire un conto in banca doveva avere due colloqui con un direttore di banca, perché una donna single, non sposata, non poteva di per sé aprire un conto in banca. Oggi non è così, ma penso all'aborto, penso al divorzio, poi che ci sia una ricaduta, che questi diritti non sono effettivi, e questo è un dato. No, sono cambiati i parametri, ma è anche cambiato un'altra, cioè quello che noi notiamo oggi, che già lo sapevamo perché gli anni 70 ce l'avevano insegnato, ma non so, però lo sapevamo, però poi per un po' abbiamo pensato che fosse andata bene, e che effettivamente non è che tutti, cioè non è che i diritti sono una volta conquistati lo sono per sempre, cioè che tu hai conquistato dei diritti e qualcun altro questi diritti te li vuole togliere. Il movimento delle donne ce l'ha insegnato bene, ma anche il movimento dei lavoratori e delle lavoratrici ce l'ha insegnato molto bene, perché in questo paese ad oggi lo sciopero della TM fa incazzare, e quasi si spera che Salvini faccia perché precetti lo sciopero, e quindi anche sul significato di quello sciopero, che è una conquista del diritto del lavoro, perché ha portato i miglioramenti poi nelle condizioni dei lavoratori e delle lavoratrici, è completamente messa in discussione. È messo in discussione l'aborto, è messo in discussione il divorzio ancora no, però è messa in discussione la dipendenza economica nel rapporto di famiglia. Cioè è vero che i diritti conquistati te li possono togliere da un momento all'altro, quello sicuro. Il tema che sollevi, che secondo me è molto interessante, almeno per come lo leggo io, è che effettivamente ci si è resi conto che non basta il diritto dell'istituzione per garantire l'efficacia di un vero cambiamento. Puoi chiamare cambiamento culturale, sociale, no, non è quello. Però non basta dire c'è, cioè, l'aborto perché effettivamente ci sia il pieno diritto alla salute produttiva e riproduttiva delle donne. Questo è evidente, ma questo comunque. No, non è cosa da poco. È cosa da poco che fino a mo sembrava, cioè che fino a 10-15 anni fa non c'era questa percezione. Questa percezione oggi invece è palesissima. Ha una potenzialità però questa cosa, perché vuol dire che noi dovremmo un attimo anche rivedere il rapporto con lo Stato, il rapporto con le istituzioni, che cosa vuol dire chiedere un diritto. Scusate, che cosa significa chiedere un diritto, pretendere un diritto, conquistare un diritto, cioè i diversi livelli. C'è però oggettivamente una fascia giovanile, lo dicevi prima molto bene, che anche nella loro marginalità numerica, perché probabilmente non sono la maggioranza, e con giovanile intendo molto giovani, cioè la fascia 15-20, che effettivamente su alcuni temi mostra una sensibilità completamente diversa rispetto anche forse alle generazioni nostre, che non sono generazioni degli anni 70, ma sono post caduta del muro sostanzialmente. Ed è vero che sul tema di genere dell'ecologia in generale c'è molta più attenzione. Bisogna vedere probabilmente, e questo però riguarda sì i settori conflittuali, sociali, politici, eccetera, eccetera, bisogna vedere come questa attenzione poi viene declinata nella quotidianità. Perché c'è quasi un'attenzione molto incentrata sull'io, quindi io mi percepisco e vivo una sessualità e un genere fluido, relazioni affettive sessuali diverse, eccetera, eccetera. Io mi atteggio nei confronti della questione climatica in una maniera completamente diversa. Se posso evitare, non prendo la macchina, sto attento alla differenza, cioè una serie di cose. Addirittura metto in discussione l'alimentazione, se di mezzo ci sono cadaveri, rispetto invece a un'alimentazione di un altro tipo. Questa cosa c'è, il problema è che è molto io, cioè che è un'elaborazione o che riguarda il mondo virtuale, quindi social, blog, che comunque è una forma di realtà anche quella, non è che la possiamo cancellare, esiste, o un'elaborazione molto individuale. È la piazza rimane, il problema è che le piazze rimangono vuote, quello sì. però questa fascia esiste, non è che la, cioè, non do a questa fascia di giovani il compito di cambiare il mondo, dovete farlo voi, noi basta, cioè, non penso sia quello. Però almeno guardiamo che quella fascia, cioè guardiamo una delle soggettività legate a quella fascia di età, che su certi temi, su certi linguaggi, su certe attenzioni sono molto diverse rispetto a prima e probabilmente qualcosa muovono o spostano. Uso questi termini, questi verbi molto moderati, così per non sbilanciarmi sul pessimismo, ottimismo, no? rispetto al futuro. Però questa è molto lunga probabilmente, però c'è anche il tema che in parte il capitale ha sussunto molto bene il femminismo, perché ha capito che non era il movimento di poche, ma era un movimento che potenzialmente andava a coinvolgere come minimo il 50% della popolazione nella sua potenzialità. Ed è vero che anche sul mondo del lavoro, ma lo vediamo nelle famiglie, sui dati di prima, noi abbiamo i dati di oggi. Il tema, abbiamo i dati di oggi che ci fanno dire la situazione è drastica. In realtà non abbiamo i dati di prima, perché il dato che tu hai, per esempio, se tu pensi alle denunce, ai femminicidi, eccetera, eccetera, tu ce li hai perché c'è stata una coscienza che porta a dichiarare, nominare, denunciare, eccetera, eccetera. Sappiamo che questa coscienza 50 anni fa non c'era e che quindi abbiamo avuto sicuramente molte meno denunce, molto meno letture di quelle dinamiche. Cioè quello che noi oggi sappiamo essere violenza di genere, negli anni 50 e 60 non era neanche concepita come tale. Quindi è chiaro che di fronte a questa coscienza di oggi, che è il frutto di bla bla bla, è chiaro che aumenta la visibilità di quel tipo di violenza. Peggio o meglio rispetto a quegli anni è molto, secondo me, in termini non di qualità, di quantità, è difficile dirlo perché non hai dei dati reali legati a quegli anni. Cioè possiamo solo immaginare che cosa possa essere i dati sullo stupro degli anni 50 in questo paese. Li puoi solo immaginare perché non c'era quella coscienza, non c'era quel femminismo. Sì, perdonami, posso dirti un dato, e io parlo di vita vissuta. Allora, il movimento femminista degli anni 70 è riuscita momentaneamente in un periodo a far diminuire la violenza sulle donne. Questo è un dato di fatto. Dove c'è un movimento delle donne che vanno per le lotte cosiddette di liberazione, la violenza su di loro diminuisce. Quando invece non ci sono movimenti di liberazione abbastanza forti, sia che siano a livello diciamo di femminismo, ma anche a livello di maschi che prendono coscienza, allora ti posso assicurare che il livello di violenza e quindi di patriarcato diminuisce. Sì, probabilmente, sì, sì. È oggettivo. No, ma c'è questa cosa. No, l'unica roba appunto è il confronto con anni su cui non hai, in termini di dati, non in termini di sensibilità politica, in termini di dati, cioè un po' come dire oggi c'è più omofobia degli anni 60, in termini di dati, sì. Oggi c'è più rispetto ai dati denunciati degli anni 60, oggi ci sono più aggressioni omofobe, ma perché negli anni 60 gli omosessuali neanche si nominavano come tali e quelli che si nominavano e che subivano attacchi violenti non denunciavano. Cioè non hai quel dato perché non hai, e quindi quel confronto. Ecco, poi un'altra particolarità: il capitalismo ha assorbito molte tematiche, non dico femministe, cioè il fatto che il capo del partito dei neonazisti sia una lesbica, cioè anche la Meloni non è lesbica, non è omosessuale, però che cos'è? Cioè a livello politico, a livello culturale. Sì, certo, quindi certo. Cioè, il potere assorbe, certo. E te lo ributta sul mercato. Quindi è un gioco di cui noi dobbiamo sempre stare attenti, sì, sì, d'accordissimo. Di non cadere. Va bene, ringraziamo chiunque sia rimasto, grazie mille. Arriverà ovviamente a regolare il podcast e tutto questo, quindi potete riascoltare e riandare a specificare. Grazie mille Daniele, se ci sei stato, grazie mille a Mauro di averci accompagnato in questo fantastico viaggio. ci rivedremo altrove, in altre poste e situazioni, sicuramente il 21 di marzo che presentiamo un altro libro. Però restate, grazie, state collegati e collegate per vederlo. Ciao, ne?